Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori, benvenuti, buona domenica, 25 settembre, sono le 14:35 primi e 30 secondi. Vicino a me c'è già l'attore doppiatore di turno, che fatalità ha qualcosa a che fare con il nostro ospite telefonico. Sapete, da quando abbiamo ricominciato con i nostri amici autori Alessia Navarro e Mauro Meconi, intanto ringrazio dall'altra parte il vedo Alessandro e Gaia che è tornata, tutti i tecnici a Milano, la messa in onda eccetera eccetera, ma dall'altra parte del cavo telefonico c'è un grande personaggio che ha raccontato tanto e magari ha ancora voglia di raccontarci qualcosa di più, un duo comico d'eccezione degli anni 60 che ha avuto tutto il successo del mondo, erano Rick e Gian. Al telefono ho il grande amico Rick. Pronto? Ciao Pino! Oh, questo è l'entusiasmo che volevo, Rick. Che piacere sentire la tua voce. No, guarda, smettila, è la tua di voce, ma non facciamo questa cosa. Allora, tu devi sapere che al mio fianco tu sei di Torino. Sei nato a Torino nel 1935, sei un giovincello di 80 anni. Nato il 31 dicembre, pure questo, sei nato coi botti praticamente. Che è successo? Beh. E vicino a me c'è un altro signore, un altro giovane ottantenne, grande attore doppiatore, nato a Torino, a fianco a casa tua, e si chiama Bruno Alessandro. Oh, che piacere. Ciao, noi non ci conosciamo, io sono Bruno, sono anch'io del 35, però io sono più giovane di te, sono del 28 dicembre, sì caro, tre giorni. Sei più vecchio. Sei più vecchio. Sono più vecchio di tre giorni. Più vecchio, non più giovane. Si perdono i conti a 80 anni. A 80 anni. Per cui lui Bruno è vero, non è vero. Bruno è un grande. Lo so che non è vero, lo so. È un grandissimo, la voce di Derrick eccetera, ma ne parleremo con lui strada facendo, però mi piaceva telefonarti, ti telefono sempre per augurarti ogni bene e di ringraziarti. Sei uno dei pochi, devo dirlo. Sei uno dei pochi. Ma noi siamo figli, siamo vostri figli, per cui è giusto ricordarvi sempre, soprattutto in vita, Rick, perché ricordarvi dopo non me va. Non chiamarmi papà. No, ma neanche, te posso chiamare manco nonno, senti, ma io ho letto che hai fatto anche il ballerino fantasista, Rick, a parte essere l'attore che tutti conoscono. Beh, io sono nato con quella roba lì, io sono proprio nato. No, sì, sì. Non lo sapevo che eri un ballerino fantasista, in che senso, ballavi a fantasia, com'era? Cioè... No, adesso il ballerino fantasista era, mi sembra un po' eccessivo, ma comunque ho cominciato con il rock and roll acrobatico, tutta quella roba lì, ma poi ho fatto il ballerino professionista. Ma dai, non lo sapevo. E come no, con Macario, io sono nato con il buon Macario. Non come avanti spettacolo, cioè, ma spettacolo sicuramente, però ballavi. Allora. Ballavo e sono diventato primo ballerino. No, prima. Alla Rai caratterista. Primo ai tempi i quadri li facevano con i soggetti, c'era uno storyboard, no? Certo. Io cucavo sempre dei personaggi allucinati. È di lì che hanno capito che dovevo fare il comico. Esatto, è come se io facevi porno, ero lì un caratterista anch'io, insomma, ero un comico pure io. Cioè, la stessa cosa tua. Tu ballavi e facevi ridere, io avrei fatto ridere per altri motivi. Dall'altra parte del vetro c'è un mio amico che mi viene sempre a trovare, un grandissimo, forse uno dei miei migliori amici, sono il migliore, che è Claudio Ferraro, che è grande, grande coreografo televisivo e non solo, anche teatro, per cui si sta facendo un po' di risata, anche lui c'ha un pezzo da 60, per cui non può scherzare più di tanto, però era ballerino invece di grandi prime serate. Rick, senti, e Gianni quando l'hai incontrato? Gianni, ci siamo incontrati nel lontano 60, in uno stabile di Torino, una cosa un po' così, insomma... E di lì siamo partiti, perché ai tempi c'era solo il teatro, non c'erano mica tutte queste televisioni. No, ce n'era una. Quindi per cui per sopravvivere e mangiare, siamo stati i primi a fare le serate nelle balere, dove ci capitava, insomma, abbiamo giocato, abbiamo lavorato anche nei giochi da boccia, guarda, dappertutto. Quindi... Se si deve fare, uno deve partire, perché a parte deve saperci anche tornare, pensa, quello che ti dico. Sai che bello, cioè, mi sembra di essere a Roma, cioè, parlando con te, siccome è una vita che non mi muovo più fra Roma. Perché hai fatto il ballerino e ti sei fatto male alle ossa. Perché stai così? No, io sono ancora attivissimo, perché gioco biliardo, faccio. Vabbè, biliardo, mica è movimento quello, dai. Tu, a te pare, no, no. A te pare. È così, Bruno. È così. Io, scusa se mi intervengo un attimo, sono Bruno. Io mi ricordo di te quando lavoravi con Ferrero ancora. Pensa un po'. Che ero lo stabile di Torino, Mario Ferrero, bravo. No, bravo. Ma anche con il comico Ferrero. Non sì, si chiamava sì, così. E tutti comico. Così, anche quando mangiavi la cioccolata. Che allora, facevi cioè. Copia già, forse con Gian, non mi ricordo. Al Teatro Romano, mi sembra, d'averti visto, no? Allora sbaglio? Al Maffei. Il Romano è stato il primo teatro che Ferrero ha operato, poi è passato al Teatro Maffei e lì è diventato una specie di stabile per cui siamo qualcuno. Sei tu che sei instabile adesso, allora, insomma, con queste gambe, santa guarda, miseria. Lascia perdere. Vabbè, comunque. Guarda, io voglio, adesso era una telefonata ovviamente per aprire nel modo migliore con te e con Bruno Alessandro questa trasmissione che ci sta dando veramente tanta soddisfazione, però una passeggiata, il treno Torino-Roma, dove stai? A Milano, dove stai in questo momento? A Busto Arsizio. Cioè, c'è un treno, hai visto quelle cose che corrono sui binari? Ci mettono... Sì, che sono anche dipinti di rosso. Esatto, rosso. Poi come... esatto. 3 ore stai a Roma, ti vengono a prendere, per cui fai 10 metri, entri in macchina, c'è un ascensore che ti porta qui al secondo piano del palazzo di magari, Radio 24. Magari. Non mi illudere. Ma no, ma parlo con l'infermiera, casomai, parlo con lei, dai, in qualche modo ci riusciamo. Porca puttana, ma la vuoi smettere? Dai, è il modo più bello del mondo, esorcizzare tutto quanto. Che bello, una bella notizia, poi una bella giornata, vinto il Torino, bravo, sono del Toro anch'io, bravo, bene. Beh, pensa, io sono della Lazio, pensa che giornata che stavamo a passare forza tutti qua. Ho fatto pure un regalo lì, Senti, quanto ha vinto? 3-1. Io sapevo 1-0 Belotti. Ma poteva essere anche 4-5. Ecco, mo sembra che io ve l'abbia. Qui siamo in casa dei romanisti, mi guardano tutti. No, mica tanto. Il conduttore è un'altra situazione, ma questo non potevo dirlo. Però tanto noi giocheremo fra un po'. Non ti preoccupare, che mai una gioia alla fine, tutti convocati. Forza Toro, sono tornati i tempi d'oro. Ma bravo, senti, bravo. I Curvaroli di 80 anni, ma te rendi conto? È stupendo sta la nostra generazione. Gli juventini ce n'eran pochi, giocava in trasferta col derby. Senti, stati da fuori il veleno. No, ma io sono torinista nell'Inter, perché la storia del grande Torino è la storia di questa grande nazione, secondo me. Quando l'Italia ha perso la sua verginità come l'America con l'assassinio di John Kennedy, noi l'abbiamo persa con la morte del grande Torino, secondo me. È una vita che soffriamo noi. Stai a parlare con chi ha vinto tutto. Vabbè, oggi è una gioia, vai. Vabbè. Una gioia enorme. Rick, enorme perché parlo con voi. Smettila. Siete una boccata d'ossigeno. Che bello che sei. Giuro. Allora, se non ce la fai, perché insomma hai fatto il ballerino fantasista deve per troppi anni, gli metto un biliardo in sala, cioè che devo fare per farlo venire? Rick, preferisco fare il fantasista, guarda. Ecco, fai il fantasista e vieni qui col numero 10 dietro le spalle. O se no giù come a voce. Va bene. Senti, i torinesi. Mi è venuta voglia di Gianduiotta a sentirvi parlare. Rick, io ti abbraccio. Ti abbraccio forte a te. Un bacio a Gian, ovunque ci starà sicuramente sentendo e guardando. Io me lo auguro sempre che sia così. Grazie per tutto quello che ci hai dato e ci darai ancora, perché ci sei. E allora. Mi hai dato un momento di gioia. Grazie, Pino. Tu l'hai dato a noi. Anche a Bruno. Anche ciao, a Bruno. Ciao. Ciao, grande ciao, Rick. Ciao. Ti voglio bene. Ciao. Che bella cosa. Ma sì, io sono molto contento perché uno si deve ricordare da dove è partito, certo. Chi ti ha raccontato quelle cose, chi ti ha ispirato in tutto questo. Allora mi sembrava giusto. E poi la fatalità ha voluto unirvi qua insieme. È un caso proprio. Sì, è un caso. Devi essere ospite addirittura la scorsa settimana, poi invece questa. Vabbè, ma tutto non nasce per caso. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco perché già vola il tempo. Un piccolo momento pubblicitario e torniamo in diretta, invece continuiamo su Facebook, mi raccomando, perché ci sono dei ragazzi che come sempre si alternano a venire a giocare con noi, poi magari più meritevoli faranno qualcosa di più in diretta radiofonica o chissà qualcos'altro pure in sala, visto che Bruno è un altro che scopre talenti. Io posso dire di essere suo figlio nel doppiaggio. Ah, tra pochissimo, mi raccomando, Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno. Chi sta seguendo la diretta su Facebook si rende conto che questo piccolo fiatone è dovuto al fatto che abbiamo questi intermezzi divertenti, carini, con delle persone che inseguono questo mestiere o che vogliono farlo. Ovviamente persone che hanno studiato, che stanno studiando e magari cercano una possibilità, come è capitato a me con il grande Bruno Alessandro. Ma prima di cominciare a parlare con lui, abbiamo già cominciato a parlare grazie a questa amicizia con Rick, io mi sento un Derrick dannata. Prego. Ispettore capo Derrick. Piacere. Buonasera. Ispettore Klein. Buonasera. Sì, allora ho dato un'occhiata al cadavere subito dopo che... Subito dopo l'aggressione, immagino. Capisco. E magari sa anche chi è l'assassino. Niente male. L'assassino doveva essere un tipo alto e anche molto robusto. Oh, non necessariamente. È una tecnica che oggi insegnano in tutti gli eserciti del mondo per i combattimenti corpo a corpo. Potrebbe impararla anche lei che è medico, esatto? Sì, sono capo reparto al Sant'Anna. Chi sarà Eric? Un momento, è un nome che ho appena letto. Eric Keller, col numero di telefono. Finalmente, Arthur. Ma dove eri andato a cacciarti? Aspettavo la tua telefonata. Lo sai che ore sono? Sì, sono 3:30 del mattino. Ma chi parla? Derrick. Ispettore Derrick della squadra omicidi. Mi trovo qui, in casa di Arthur Lickman. Lei dove abita, signor Heller? Nella Kaulbachstrasse. Perché me lo chiede? Potrebbe venire subito qui. Lickman è stato ucciso. Ha l'automobile o vuole che gliene mandiamo una noi? La prego di venire subito. Allora Bruno, Derrick ti ha accompagnato per quanti anni? Dunque dal 79 fino a circa il 2000. Mamma mia. Nel frattempo la mia voce è un pochino invecchiata, ma non ci fate caso. Non molto, sai. Non Bruno. Molto, non molto, vabbè. No, però quello vabbè. È stato, erano sì, fine anni 70, io sì, facevo sì. I primi brusii nella stanza dove tu doppiavi il protagonista. E dove tu, io devo dirlo, anche se uno parla di sé, non devo parlare di me, ma no, ovviamente no, sono ci coinvolge il condotto, questo. Però ci coinvolge, perché per dare una speranza a tutti quelli che sognano di fare un mestiere e di incontrare delle persone meritocratiche che vedono oltre l'inizio di quell'entusiasmo di quel piccolo ragazzo che magari sta navigando all'interno di una sala di incisione, dentro una sala operatoria, dentro qualsiasi tipo di lavoro. Ecco, Bruno vide in me quella gioia e mi diede un giorno, io facevo i brusii, parlo di 35 anni fa, e Bruno mi chiamò e mi diedero 6 turni di un film che era Il Cavaliere Pallido con Clint Eastwood, e io facevo Christopher Penn, e lui mi disse, io ho detto, Bruno, ma sei sicuro? O gli davo di lei, sei sicuro? Non mi ricordo se era del lei o del no, tu. No, del tu, questa è una grande famiglia, sempre esatto. Stata. E lui mi disse, mai cominci, amico mio, e mai ti troverai a tu per tu con questo mestiere. Certo. E questa è la cosa bella, perché poi sapete perfettamente, quando uno diventa conosciuto, è un po' più facile. Prima non era così, sì. Non ero un giovane ragazzo. Però vorrei dire ai giovani che credono che sia così facile, che non lo è così facile. No, ecco, mi piace perché fare un tutorial. Io ti avevo fatto prima leggere qualcosa, certo. E tu avevi letto da attore bene, il che mi aveva convinto ad affidarti la parte, altrimenti non l'avresti mai fatta. Non bastava l'entusiasmo. No, c'era anche una capacità. Una base c'era. Caspita se c'era. Tu c'era già una base per altezza e non diviso due, c'avevi già tutto. Tu hai navigato attraverso, ovviamente, non soltanto il doppiaggio, perché un bravo doppiatore deve essere assolutamente anche un attore in qualche modo, e non è detto che sia corrisposta. Assolutamente cosa, sì. Per cui tu, cinema, teatro, assolutamente, mai sì, lasciato. Io ho fatto poco cinema, 5 o 6, e non vale la pena nominarne neanche mezzo. No, siccome me, dai. E ho fatto tanta televisione negli anni 60-70. Sì. Anche, quando c'erano anche dei ruoli, gli sceneggiati, anche non delle le fiction. Parti, anche da, una persino da protagonista, da coprotagonista per la precisione. Chi era il protagonista, Bruno? Era Ivo Garrani. Ma un giovancello anche sì, lui, un attore no, di primo pelo. Oddio, confondo. Vabbè, comunque hai nominato non una me ne vorrà Ivo. Ho no, lavorato con lui. No, era Moschin. Beh, Gastone Moschin. Insomma, non Gastone... È... No, vabbè, no, è navigato no, da un all'altro. Bagnato, ma dice, dai. Nominiamo i grandi. Quindi, esatto. Vabbè. E niente, lì e poi tanto teatro, tantissimo, come dicevo prima ai ragazzi, la magia della lingua italiana in cui la parola teatro è l'anagramma della parola attore e viceversa, attore è l'anagramma di teatro. Fateci caso, è una bellissima cosa. È bello, sì. E solo nella nostra lingua, credo almeno. E quindi è obbligatorio, se vuoi recitare, convincere la gente, devi saper recitare, deve aver fatto l'attore. Chi comincia col doppiaggio e finisce col doppiaggio, sì, diventerà anche bravo. No? Abbiamo anche, ne conosciamo, sì, alcuni, certo, notevoli, però gli mancherà sempre qualcosa. È vero, sono d'accordo con te. Poi questi film, questi sceneggiati, Non ho tempo e Enigma Rosso erano... Bravo, Enigma Rosso erano uno di questi. Quindi, con Fabio Testi protagonista. Fortunatamente ho dei buoni autori io. Noi non abbiamo una buona memoria, ma abbiamo sicuramente dei buoni autori. Beh, che ci ricordano. Non ho tempo, io dico, non vale la pena menzionarli, non perché sia un brutto film, perché io facevo una marchettina, come diciamo noi in gergo. Il film era notevole invece. Sì, eh? Sì, Giannarelli, se non ricordo male, il regista. Io non mi pronuncio. Era un bel film, impegnato, come si diceva una volta, tra virgolette, impegnato. Film impegnato. Ma impegnato vuol dire anche bello. Piacevole, non vuol dire soltanto pesante da noia. Anzi, io penso che i veri artisti, questa parola si fa un po' fatica a usare, ma invece bisogna usarla, i veri artisti sanno coniugare la profondità con la bellezza. Mi voglio sentire qui, giustamente ti fanno dei complimenti enormi, uno mi dice: Pino, ti voglio tanto bene, ma fallo parlare. Ma no, lo faccio parlare, era solo per presentarlo nel modo giusto, perché ci tengo tantissimo a Bruno. Ovviamente tutti i nostri ospiti sono persone assolutamente tridimensionali e meravigliose, ma Bruno per me è un papà, e allora ci tenevo a soffermarmi un po' più sul racconto con la mia voce. Però me la voglio risentire la sua voce, perché lui è il presidente per eccellenza al cinema. Se c'è una persona buona, una persona affabile che deve arrivare a tutto il popolo, a tutte le generazioni, è la voce di Bruno, come era quella del povero Dante Biagioni che non c'è più, del povero, del grande Gianni Musi, insomma le persone, carissimi amici miei, di tutti, e rimarranno per sempre. Io mi voglio sentire un presidente del presidente americano di un film che è The Day After Tomorrow, questo film apocalittico, ma c'è questo monologo finale dove tutti gli americani ogni volta si riscattano col monologo finale, e ti è capitato a te tranquillizzare tutta l'umanità. Che adesso andiamo a sentire? Certo, ce lo sentiamo, sì. Tranquillizza un po' l'umanità, Bruno, vai. Queste ultime settimane ci hanno lasciato dentro un profondo senso di umiltà davanti al potere distruttivo della natura. Per molti anni siamo andati avanti con l'illusione di poter continuare a sperperare le risorse naturali del pianeta senza subire conseguenze. Ci sbagliavamo. Io mi sbagliavo. Il fatto che il mio primo discorso alla nazione vi giunge da una terra straniera è la dimostrazione che la realtà è cambiata. Non solo gli americani. Molti altri popoli del globo sono ora ospiti di nazioni che per tanto tempo abbiamo chiamato il terzo mondo. Nel momento del bisogno queste nazioni ci hanno accolti e dato asilo. E io sono loro profondamente grato di tale ospitalità. Bruno Alessandro, presidente subito. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Tornati in diretta, 14:59 primi e 15 secondi, sempre ancora un altro po' con Bruno Alessandro, che insomma è persona straordinaria, veramente di grande umanità, ma soprattutto anche un ottimo maestro. Tu fai anche l'insegnante, ringraziando il cielo, da qualche parte. No? Si chiama Voice Art, lo dico tranquillamente perché certo, per 2 anni ha vinto il premio come miglior scuola di doppiaggio in Italia. Ma che bello! Il che è anche un... C'è un sito, ovviamente. Sì. Voice Art. Ah, scritto Voice. Voi che sapete, è come Voice Anatomy. Ma è Voice Anatomy, ovviamente. E Voice è uguale, insomma. .it, immagino. Credo. Qui si vede che siamo analogici, Bruno. Si sente. Senti, vista la tua voce rassicurante, sì, perché di quello si tratta, anche se poi fai cattivi, l'hai mai fatti, Bruno? Certo. Immagino di sì. Ma sono i più belli i cattivi. Scherzi. Poi ti vanno a fare più i buoni, però i cattivi mi piacciono. Chi ti ricordi di cattivo? C'è qualcuno che ti ricordi? Mamma mia. Sicuro. Ne ho fatti tanti, però non me ne ricordo manco. Ma anche i buoni mi ricordo, sempre quello. Però è Born Identity, della serie di Born, fai, sì, sì, è vero. Ma adesso poi sto facendo una specie di zombie, uno che parla così. Dove? Una serie che si chiama The Strain, sì, che è fatta di un film horror, una serie horror, e questo che dice il padrone deve fare quella cosa, adesso verrà. Il Bruno, la parte cattiva di Bruno. Bruno, però noi l'abbiamo scelto la parte scelto. Buona, sì, bene, una cosa che sembrava carina, le regole per rispettare l'ambiente, non è pubblicità progresso, ma era molto carino, detto da te, magari ci aiuta anche in un momento storico difficile, che ecco, finisce leggere? Qui queste regole qui, da qui fin qui, fino qui finiscono qui, fino là. È come dette da lui, io credo, per il ministro dell'ambiente, qui c'è ruba questa cosa, ma devo parlare con Bruno ovviamente. Sì, esatto. Partiamo con la musica di sottofondo che merita, e che poi tratta da Into the Wild. Tu fammi un segno, quando vado. Io ti faccio un segno quando vuoi. Vai, amico mio. Vai, vai, vai. Regole per rispettare l'ambiente. Non sprecare l'acqua. L'oro blu è un bene prezioso che non ci sarà per sempre in abbondanza per tutti. Fare la raccolta differenziata e non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo per strada. Costruire case ecologiche, meglio se di legno, poiché sono ecocompatibili e sicure in caso di terremoti. Una casa ecologica permette non solo di rispettare l'ambiente, ma anche di risparmiare denaro. Creare energia pulita, abbandonando il nucleare e le fonti fossili, colpevoli delle emissioni di gas serra nell'aria. Aderire allo sviluppo di una mobilità sostenibile, acquistando auto elettriche e utilizzando la bicicletta per i piccoli spostamenti. Combattere la deforestazione. Tagliare gli alberi significa avere meno ossigeno nell'aria e più CO2. Significa alterare gli equilibri della natura, significa distruggere il pianeta. Rispettare la fauna. Ogni piccolo animale è indispensabile per l'equilibrio del ciclo della vita. Ma adesso voglio vedere chi spegne e butta per terra un pezzo di carta oggi, adesso, dopo questa lettura. Vedi che una voce deve essere evocativa, no? Una voce, qui trattiamo proprio di questo anche con degli esperti, vocologi, chirurghi della voce, insomma, eccetera. Non è la bella voce, questa era una bellissima voce, ma sono le belle intenzioni, sei una d'accordo? Volta lo era, ma sicuramente. Io ormai gioco su quelle, perché la voce ormai me la son giocata negli anni belli, e ci deve essere un'intenzione. Dico sempre agli attori, usate molto la testa, ma molto, molto, molto il cuore. Il cuore, è stato tutto lì, ma quello sempre, credo. Sempre, ma facendo il nostro mestiere di più. Sì, ancora di più, perché la gente poi se ne accorge, ovviamente. Poi tu sei padre di un'altra bravissima doppiatrice, che è Alessandra, che avremo presto. Antonella, sì, Alessandro è il cognome, ho detto, vabbè, ormai Bruno Alessandro, ho detto Alessandro. Antonella, che è una cara amica della sua vita, poi. Sì, Antonella, Alessandra, senti, no, dico Antonella, così se lo ricordano di più, no? Perché Antonella, Alessandro, soprattutto è come Alessandro, Antonella. Ah, capito? Perfetto. Dice, chi è? È Alessandro o è Antonella? È la voce di Samantha, sì, di Samantha. Sex and the City. Ma infatti il puttanone di Sex and the City. Il puttano è tua figlia. È mia figlia, ma nella vita è un discorso. Certo, dalla vita in giù è un altro. Certamente, non c'è dubbio. Oddio, sì. Se ti do vinto anche un festival del doppiaggio, io spero che vincerai anche quello che facciamo noi, il festival internazionale del doppiaggio, che è Voci nell'Ombra. Come miglior voce maschile, sezione televisione, per Horst Tappert, no? Io ho vinto quello nel lontano 99, poi altri due premietti qua e là. Uno importante, che dove c'eri tu, il terzo, certo. Il secondo un po' meno, quello della città di Pioraco, dove però ho mangiato un cinghiale. Dico per sei. Hai vinto un premio, anche un premio internazionale del doppiaggio, e questa si la città di Pioraco, che era il figlio di Biraschi che la faceva, no? Tu sei andato perché se mi senti. Però se mangia bene il cinghiale, io sono andato. Senti, quello ti ha convinto. Cioè, immediatamente dice vinto premio. Sì, d'accordo, ma andò se cena. Vedi gli attori. Stupendo, cioè, gli attori sono così poi spesso. Dove andiamo? In quella città o dopo, mi raccomando, dopo cena, ferma il ristorante, perché si mangia a orari impossibili. E in altri c'è solo il Bella Napoli. Ma io. Allora è difficile. c'è nulla con la città, ma no, no, se sta fuori, è chiaro il discorso per chi ama la buona tavola. Eh sì, se sta in Valle d'Aosta, si chiama Bella Napoli, già, no? Già puzza la cosa. È come all'estero quando trovi spaghetti italiani, eccetera, non è vero niente. Esatto. Tournée, l'ultima che ti sei fatta, sei andato in tournée spesso? Ne ho fatte 3.000. Io i primi 10 anni, 12, ho fatto esclusivamente teatro quasi, no? E quindi da Teatri Stabili di Torino, eccetera, Compagnia Bella, Tino Buazzelli, grande vostro attore, dimenticato oggi, era di Frascati ed era uno dei più grandi attori del dopoguerra, ragazzi miei. Tino Buazzelli, grande Nero Wolf. No? Grande Nero Wolf. Con Paolo Ferrari, che era il suo assistente. Io è quello che cercherò di fare anche con questa trasmissione, cercare di riportare a galla il nostro passato, passato d'oro, meraviglioso. Abbiamo insegnato veramente questo mestiere, questo mestiere a tutto il mondo, sia il cinema, sia il teatro, sia la televisione. Poi ce lo siamo un po' dimenticati, però ecco, siamo figli di queste cose e le persone devono assolutamente scoprire non solo Alberto Sordi, Gasma, che rimarranno per sempre, che sono nominati continuamente, ma come hai detto prima c'è Gastone Moschin, che è tuttora vivo, Ivo Carrani no, eccetera, come Tino Bazzelli no, ma bisogna saperlo. Per questo ho aperto la trasmissione con Rick, di Rick e Gian, perché è giusto intanto il piacere di dare a queste persone, le persone che le conoscono, la possibilità di risentirli e provare un senso di gioia. E questo ti fa onore. Ma no, ci mancherebbe altro. L'ho detta bene, ti fa onore. Ti fa onore, ti sei appoggiato su una cosa impossibile. Tu mi hai spento il computer nel frattempo, non so come hai fatto, Mauro Megoni in diretta mi ha spento completamente tutti i messaggi. Benissimo, bene. L'importante è che no, si riaccende, tranquillo, tranquillo. Io richiamerei un attimo quella ragazza che abbiamo sentito fuori onda, visto che c'è la possibilità, e c'è Bruno che sicuramente ha più voce in capitolo di me nell'ascoltare e nel riconoscere una voce. A me non mi è dispiaciuta per niente questa ragazza. Adesso sta arrivando, eccola qui, piccolissima ma straordinaria. Chiudi la porta e andiamo in diretta con te. Hai ripreso quel testo di prima? No, non l'ho. Brava, complimenti. Lo sai a memoria? Lo sai a memoria? No. Allora dai. Vedi, ecco, questa è. Racconta una barzelletta. Esatto. Lei e lui al telefono. Sì. Lei ciao, lui ciao, lei ciao, lui ciao, lei sono incinta, lui ciao. Vabbè. Meno male che so. Eccolo qua, buoni. Eccola, allora vieni qui davanti al microfono. È per lì davanti a quel microfono. Come professionisti. Eccolo qua, sentite parlare con la voce un po' che fa campo, è Mauro Megoni, okay, che ci sta accompagnando in questa diretta. Eccoci. Allora, metti la cuffia, tesoro. Metto. Ecco, sì, così non ti bagni i capelli. Vai. Vabbè. Okay. Avvicinati al microfono e vai. Opla. Dai, un po' di musichina anche per la ragazza, dai. Eccola. 23 febbraio 1989. Caro diario, morirò questa notte. È deciso. Devo farlo perché questo è l'unico modo per tenere Bob lontano da me. È l'unico modo per strapparmelo da dentro. Lo so che lui mi vuole. Posso sentire il suo fuoco. Ma se muoio, non può più farmi del male. Qualcuno ha strappato molte pagine del mio diario. Pagine che forse mi aiutano a capire. Pagine con le mie poesie, pagine scritte, pagine private. Non ho paura della morte. Ho solo paura a prendere il posto che viene tenuto libero per me nelle tenebre. Forse è il prezzo da pagare per vivere qui a Twin Peaks. C'è una specie di malattia nell'aria, qualcosa di molto molto strano fra questi vecchi boschi. Assume forme diverse, ma è sempre stato qui, da tempo immemorabile. Eccolo. Bene, brava. Non è male, vero? No, no, perché bisogna vedere quanto era emozione, quanto era sentimento vero. Ma se uno si riesce a mettere dentro le parole. Però le due cose vanno bene, le due cose mischiate era un bel mélange. Brava. Grazie. Come ti chiami? Veronica. Bene, quando al doppiaggio ti dicono però lascia una foto, vuol dire che non è andata bene. No. Al cinema sì, lasci una foto, le faremo sapere. Veronica, le faremo sapere. Esatto. Grazie mille. Veronica, va bene, va bene. Eh sì, è una voce interessante comunque. Sì, sì, sì. E poi c'è cuore, mi piacciono quelle persone che hanno cuore, mi piacciono. Brava, okay, brava. Grazie mille. Allora, puoi lasciare 150 euro all'entrata, sì, dove sai. Esatto. No, stiamo scherzando, mi raccomando. Sono molte di più, naturalmente. Esatto. Cioè, uno si sporca per 150 euro. Radio 24, la radio di Confindustria. Dai, dai, dobbiamo guadagnare così, ma più per tirare su le sorti di tutta la nostra vita. vita. No, no, io devo dire grazie a questa radio, perché è una radio, la talk radio più importante, e dà lo spazio giusto, nel modo giusto e anche con gli argomenti giusti. E poi è coraggioso, insomma, dopo una settimana di finanza, economia, il sabato e domenica la direzione generale ha deciso di intraprendere queste strade alternative che possono anche fidelizzare un po' di più i radioascoltatori, che sono sempre più di 2 milioni, per cui questa radio, ed è mi bello. Auguro che si siano divertiti, se lo hanno fatto a metà di quello che ho fatto io, di quanto mi sono divertito io, è uno straordinario successo. Sì, oggi. Ma sai, fa compagnia e soprattutto si scopre un'alternativa al calcio, insomma, pomeridiano, visto le squadre di cui facciamo parte noi, possiamo anche perdere qualche partita, non succede niente. Però se battiamo la Roma tu sei contento. No, io devo essere trasversale, io so. Mio amico che tiene adesso il telefono in mano e l'altra che è capo autrice sono della Roma, momento. Per cui devo rispettare assolutamente una città come Roma. Sì, sono sicuro che canteranno Domenica di Gioia. Dai, si vive in una società multilaziale, come dico sempre io, per cui siamo tranquilli. No, ma l'importante c'è il derby domenica, no? No, ancora no, lascia stare tanto ormai. No, io vivo serenamente, sono molto meritocratico in questo, la gente che mi conta lo sa. A me piace, il mio successo non sarà mai l'insuccesso di un altro, non so se ti capita. Questo Bruno. È bello, anche per me è così. Guarda, sembra una cosa detta lì per a 80 anni non ci si arruffiano più con la gente. No. Non l'ho mai fatto neanche prima, figuriamoci adesso. Ma dico sempre quello che penso e quindi è dura, sì, ma è bello fare i complimenti. Così. È bello, è bello anche dire a una persona che non vale niente. Sentono. Non ti dico niente, magari non ti offendo. Ma qualche volta mi scappa anche la sciocchezza quando non mi piace una cosa. Ma guarda, secondo me è la cosa migliore. Poi finché uno mette le persone giuste al posto giusto, che è poi il segreto della vita, tutto questo non succede. Ci sta pure la raccomandazione, ci stava pure prima, secondo me, anche nei sceneggiati di una volta trovavi un personaggio o due messi lì, chissà perché, ma uno o due. Adesso magari trovi qualcosa di più. Adesso sono uno o due quelli che hai messo tu, gli altri senza sacchi da me. Non vuole essere veramente dispregiativo né massificare, però ma in è qualche così. Modo le cose sono peggiorate, in sì, qualche in modo. In qualche modo, perché per esempio nel teatro, insomma, uno deve essere però non meritocratico. Crediamo nei corsi e ricorsi, speriamo in tempi migliori, no? Sì, perché poi ecco, trovi ragazzi pieni di entusiasmi, io spero che come loro Veronica, trovino sulla loro strada altrettanti maestri che possono dargli la possibilità con grande, come tu l'hai data a me, di esprimersi. E non ero veramente, no che adesso sia chissà cosa, ma non facevo televisione, facevo solo tanto teatro, e ho trovato nella mia strada una persona come te. Come eri quasi un esordiente. Ero assolutamente un esordiente, vicino a te il grande Michele Calamera, che come finirà questa fine, è la voce di Clint Eastwood e non solo, ma avere Michele è difficile, perché lui sta all'estero a girare le fiction, capito? Hai capito? Per cui ho detto dopo ottobre sono totalmente tuo. Sai no, dopo ottobre sai com'è, non lui, molto retorico, per cui avremo la possibilità di sentire anche il grande Michele Calamera, verrà anche ovviamente Luca Ward, che ancora non siamo riusciti ad avere per i vari impegni che Luca poi, insomma, lui lavora anche lui molto. Lui è sulla cresta dell'onda, capito? Sta facendo le tre rose di Eva, ha detto te ne faccio trova quattro, ma vieni anche perché abbiamo un corso insieme, eccetera eccetera. Bruno, grazie, siamo arrivati alla fine del tuo grazie intervento. Grazie a te, perché hai detto finalmente grazie, prima non me l'avevi ancora detto. No, aspetto la fine, mica te posso ringraziare ogni due minuti, Bruno. È vero. O Alessandro, come preferisci io ti chiamo. Bruno Alessandro, che bello avere due nomi al posto di un è cognome. Tutta la vita. qual è il nome? Tutta la vita sarei stato bellissimo. Così, a scuola poi soprattutto. Ok. Va bene. Io ringrazio te, veramente è stato bello, e saluto l'amico di Torino, amico nuovo acquisito oggi. Riccardone, sì. Sì. E noi ti abbracciamo, anche tutti i nostri radioascoltatori, anche videoascoltatori ormai con questa invenzione di questi signori. Bene, abbiamo avuto l'amico e il grandissimo Bruno Alessandro, restate con noi, adesso c'è un blocco che abbiamo registrato l'altra settimana con Frank Merenda, che è il grande preparatore, grande motivatore, grande insegnante di venditore, il numero uno veramente non soltanto in Italia, visto che lui lavora molto all'estero, ho preferito registrare questi tutorial di 10 minuti molto ma molto interessanti, e poi tornerà ovviamente in diretta per farne degli altri, ma nel frattempo ce lo godiamo questi 10 minuti, noi continuiamo però la nostra diretta di Facebook video dietro le quinte, ma ascoltate assolutamente Frank Merenda in questo suo straordinario intervento, e grazie perché la scorsa settimana ci avete regalato un sogno meraviglioso, siamo stati il podcast più scaricato in questa nazione, e questo grazie sempre a voi, al vostro affetto e molto probabilmente anche a qualche contenuto che avrà entusiasmato i nostri amici. Allora Frank Merenda dopo la pubblicità e poi torniamo assolutamente in diretta con degli artisti straordinari, c'è anche Sartoretti, cioè veramente è delle storie interessantissime. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, e come promesso già dall'altra settimana abbiamo la possibilità di costruire insieme all'amico Frank Merenda questi piccole pillole che sono poi a merenda, all'orario è quello giusto, poi tu hai un podcast che l'hai inventato tu questo. Sai che questa cosa mi perseguita da quando ho cominciato ad andare all'asilo, questa cosa del cognome merenda, l'ora della merenda. Me insegno. Siamo rovinati. È così, però ne hai fatto un brand importante, sì. Visto che poi funziona tantissimo e abbiamo cominciato a fare questo percorso insieme con Frank per un venditore vincente, cosa che fai da tanti anni con grandissimo successo, visto che siamo amici io ti ho incastrato per qualche domenica per darci qualche piccola grande nozione su come presentarsi meglio per qualsiasi tipo di evenienza per un venditore che sia. L'altra volta hai parlato di come veniva costruita all'inizio questo modo di vendere, cioè dallo stile americano, che è ovviamente diversissimo da quello nostro. Sono arrivate migliaia di messaggi, ognuno di una regione diversa, ma io che sono di siciliano, uno ha detto fai il venditore vincente. Grande. Anche grande ironia, sì. Questa settimana in questi 10 minuti che cosa ci racconti? Ovviamente sono pochi a differenza dei tuoi giorni meravigliosi che sono sempre 3 o 4 giorni interi. Sì, sì. Ma però è importante lanciare dei messaggi corretti. Che le possiamo Radio possono... 24, credo, sì, che sì, sia la radio giusta, migliore per poter raccontare tutto questo. Allora, visto che siamo durante un programma che ovviamente parla di voce, parla quindi di doppiatori, parla di attori, parla di queste tematiche, io rimarrei su queste tematiche che sono strettamente legate alla vendita, quindi ne vorrei anche discutere con te, nel senso volentieri. Che se ti ricordi l'altra volta, la settimana scorsa, parlavamo di questa cosa che è legata alla diffidenza enorme delle persone in Italia, quindi è diverso dal mondo anglosassone, dal mondo teutonico. Nel mondo latino c'è una diffidenza molto più forte, in Italia in maniera particolare. Questo comporta che la vendita sia qualcosa di difficile per chi semplicemente, in maniera molto gentile, cortese, preparata, pensa che fare il venditore sia semplicemente spiegare bene i prodotti, per esempio, no? Quindi essere molto preparato, spiegare bene, essere molto gentile e quant'altro, e saper rispondere alle domande del cliente, poi il cliente decide lui. Questo ovviamente vale per tutti i tipi di venditori, non soltanto quelli porta a porta, ma anche un venditore che viene accolto nella gli informatori, il venditore che va in una grande azienda con tanto di appuntamento, insomma, assolutamente, non è, sì, per cui... anche nelle vendite complesse di base non cioè, cambia il contesto, ma certo, in realtà l'approccio è identico, nel senso il profilo di diffidenza che una persona ha è che deve affrontare è sempre lo stesso. Allora in realtà la capacità di un venditore deve essere quella di cambiare tra virgolette questo tono emotivo di grande diffidenza che le persone hanno nei suoi confronti, e deve essere in grado di portarlo a un tono più elevato, cioè la persona devi essere in grado nel medio periodo, partendo da un tono molto basso di diffidenza. Molte volte i venditori si trovano di fronte all'antagonismo anche dei clienti, no, non voglio niente, vada via, cioè tutte queste cose che tu conosci, certo, molto meglio di me perché hai cominciato la tua carriera come venditore, no? Sì, mi raccontavi. Vendendo me stesso. Sì, sì, no, sì. No, poi ho venduto sì anche i materassi, cioè quello ho cominciato a fare. Quindi c'era questo approccio molto forte, molto negativo, molto antagonista. È difficile, cioè dov'è l'errore base del venditore? Partire molto carico, come diciamo l'altra scorsa, no? Molto entusiasta, quindi molto distante da quello che è il tono emotivo della persona che ti trovi davanti. Quindi una delle capacità importanti che deve sviluppare il venditore è questa capacità di aprire il gas molto lentamente e conquistare un pezzettino alla volta la persona piano piano. Se noi lo paragonassimo anche quello che fai tu, no? Cioè l'attore comico, quanto è difficile quando hai un 5 minuti per esempio di pezzo per far ridere, cioè lo devi programmare tutto affinché la persona nella parte finale, no, nel gran finale, poi veda questa sorpresa, no, abbia questo cambio di colpo tono di scena, colpo di scena. Ok, la vendita tendenzialmente è la stessa cosa, nel senso che devi trascinare la persona all'interno, ovviamente non è una recita la vendita, è un dialogo, cioè e più le persone queste cose. Il dialogo non scritto, poi. Non scritto, tra l'altro, quindi non c'è il copione. Okay? Quindi esatto. La differenza è che è più teatro dell'improvvisazione da un certo punto di vista. Quindi essere in grado di fare le domande giuste, di dare l'attenzione giusta alla persona, di ascoltare nella maniera corretta. Capire come sta quella persona mentre stai cercando di vendere. Assolutamente sì, soprattutto cercare di capire come sta quella persona, perché il gioco della vendita è un gioco nell'usare la voce in maniera corretta per agganciare la persona laddove si trova. E quindi non trovarsi distante all'inizio e poi portarla piano piano verso l'alto, quindi portarla piano piano a essere più emotivamente coinvolta, più interessata, quindi provare un interesse sempre più forte. E anche come fare l'amore, poi è la stessa cosa. Anche lì, se andiamo ad analizzarlo, è uguale, non è poi cominciare bam, bam, bam, bam. No, devi cominciare, è uguale, è come quando non so andiamo in discoteca, no? Quando tu fai sempre le scenette su queste cose, sono meravigliose, però il concetto è uguale, cioè, uno si presenta e sto qua che vuoi e fa, ma no, cioè è un po' troppo. Esatto. I venditori sono così, cioè si scordano che quando magari devono conquistare una ragazza l'approccio è gentile, carino e piano piano, diciamo, si scoprono le carte per cercare di creare quell'intimità, quel coinvolgimento, quell'affinità. Con il cliente è la stessa cosa, i venditori dilettanti non come offesa, nel senso stanno cominciando a fare il lavoro e magari nessuno gli insegna niente, partono in maniera molto gentile e carina, magari un po' timidini perché non l'hanno mai fatto, e cominciano a salve, ecco qua sono della mia azienda, posso spiegarle, siamo qua da 30 anni, le posso spiegare il nostro prodotto, e quindi partono con questo spiegone. Dopo 2 secondi il cliente crolla, andava giù a faccia. Perché? Perché l'approccio è troppo tecnico, la persona non si è interessata, non l'hai coinvolta, non gli hai fatto domande, non hai capito a che livello di interesse fosse. All'inizio è molto basso, ovviamente, no? Insomma, deve essere l'altro a chiedere di cose, quello di cui ha bisogno. Sì, sì, cioè è uno scambio di domande nel quale le domande che faccio io però mi servono per capire effettivamente di che cosa abbia bisogno la persona. Il problema qual è anche in questo caso? È che quando io faccio le domande, devo sapere le domande corrette in quel momento. Cioè non ci sono domande corrette o scorrette in senso assoluto, ci sono domande corrette o scorrette in funzione del momento della trattativa nel quale sono. Cioè se il cliente, io sono all'inizio, il cliente è molto antagonista, è molto freddo, è molto bloccato, le domande che mi posso permettere di fare non sono troppo profonde, non sono troppo, perché il cliente non mi risponde, dice oh, che vuoi, cioè l'italiano ti risponde che vuoi, proprio così, ok, qui a Roma, sì, sì, in un'altra regione ti rispondo in un altro modo, ok, chi te sei, cioè nel senso che si usa questo, no? Negli Stati Uniti non è così, quindi per esempio ti insegnano soprattutto all'inizio a fare grandi domande di approfondimento, perché per loro risponderti è il minimo della buona educazione. In Italia non è così, cioè in Italia la gente si deve ricordare che il 94% delle aziende sono microimprese con 5 dipendenti, di cui 2 sono marito e moglie, uno è il cognato, sì, familiare, condizione familiare, sotto i 2 milioni di euro fatturato. Quindi nel 94% dei casi stai parlando con una persona che l'educazione ce l'ha, ovviamente, però nel momento in cui tu sei il 100° venditore della giornata, che ti sei presentato, gli sei imboccato in negozio o dentro il ristorante o dentro la sua attività e questo c'ha 1000 cose da fare, gli capita anche che ti risponde in maniera sgarbata, non perché sia una persona maleducata o sgarbata, è perché sei arrivato nel momento sbagliato. Bisognerebbe fare anche i formatori di quelli che acquistano, secondo me, perché è come siamo noi per la strada, mi fermano 1000 persone dicendo la stessa cosa, ma devi calcolare sempre che quella è la prima volta che me lo fa questa cosa e devo trattarlo di uno, per cui bisognerebbe fare pure una formazione anche all'opposto, di essere un po' più attenzione, però non è facile, perché magari uno ti può vendere anche il prodotto della tua vita in quel momento e tu non sei in grado di recepirlo perché sei nervoso, sei stanco, devi tornare a lavorare e quello è il decimo rappresentante che ti sei presentato. Ma sai quante volte la gente mi dice, sai che tu dovresti fare i corsi per acquirente vincente? Esatto, acquirente vincente. Sono serio, ma guarda, io sono serio. Ma no, io guarda, pensavo, perché ti ripeto, a me tante volte mi propongono, c'ho un testo, vorrei che tu lo leggessi, persone che non sai né il nome né il cognome. L'altro giorno è capitata esattamente una cosa del genere, io siccome leggo tutto, dove è possibile, non è che posso veramente leggere quando uno mi porta 200 pagine, però io mi ha stupito, l'ho chiamato, faremo molto probabilmente uno spettacolo su quella, sulla sua base di sceneggiatura, straordinaria sulla follia. Beh, era una persona che mai conosciuta, mai sentita, eppure mi ha stupito. Beh, ma noi ci siamo conosciuti così, no? È vero, mi hai dato un'opportunità quando non ci conoscevamo, no, quindi io esatto. Potevo essere qualunque pazzo. Ero un pazzo, sono un pazzo. Sì, dico, però... pensate che Frankie mi ha chiesto di condurre questa follia dell'octagon dove si gonfiano di botte, dove non c'entra niente con la sua. Quello è un suo hobby di Frankie. Mi serve un presentatore proprio come te, stile americano, goliardico, attento con la voce, che la sua tenesi bene, eccetera, eccetera. Io ho detto, boh, ma che vuole da me che questo? Poi, ma che devo fare? Io ora io ho detto ascoltiamolo, però a casa mia siamo indivisibili, indivisibili perché poi ci siamo accordati e raccordati e ci siamo incontrati su un piano bellissimo che è quello proprio di questa formazione per i venditori, eccetera. Però quest'altra cosa dell'acquisitore vincente non è male. Sì, ma è perché in realtà le persone fanno fatica a decidere. Decidere è una competenza, in realtà te la dovrebbero insegnare a scuola, fa parte della logica in realtà, e le persone sono bombardate tutto il giorno, tutti i giorni, e la crisi e non riconoscono più magari la cosa vincente, magari sì. Sta portando veramente il prodotto che potrebbe cambiare sì. La tua vita e la tua azienda. Allora sbollano 12 minuti, no, quindi sbollano. Solo per riassumere è proprio questo, quindi la capacità fondamentale per aiutare le persone a decidere è riuscire a guidarle in un dialogo che le faccia entusiasmare lentamente nel tempo corretto per arrivare a quell'orgasmo finale che condivide. Sì, ma il gol è un'azione. Il gol. Insomma, io credo sia una metafora. L'orgasmo della vendita. È tutto l'orgasmo. Nuovo libro nuovo di libro. Frank Merenda, stasera alle 20:40, Radio 24. Signori, va bene. Frank, promessa che questo tutorial continua, perché poi è una chiacchierata piacevole su un mondo per tanti versi difficile, anche se sembra così facile. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Ciao a tutti. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Voice Anatomy. Tornati assolutamente in diretta, ben tornati signori, credo non vi siete mai andati, anche se abbiamo fatto un'avventura di fuori onda in diretta Facebook. Abbiamo un ospite straordinario, 15, 32 primi e 20 secondi. Eccoci qua, davanti a me c'è Samuele Trincia e il suo percorso è davvero molto interessante. E con lui ci soffermeremo soprattutto per parlare dell'importanza della voce. Ma qual è il tuo percorso, Samuele? Presentati, la tua storia. Intanto saluto tutti quanti e ringrazio voi per questa opportunità, Mauro, Alessia e te, insomma. E il mio percorso è un percorso appunto di transizione dal genere femminile al genere maschile, intrapreso concretamente 2 anni fa, quindi all'età di 28 anni, anche se come percorso in realtà di transizione, che poi io chiamo in realtà un cammino verso la libertà, è iniziato già dall'infanzia, quindi dai primi ricordi che ho dell'infanzia, per poi concretizzarsi all'età di 28 anni. Praticamente hai capito di essere nato nel corpo sbagliato dall'inizio, insomma. Esattamente. Con esattamente. Un corpo sbagliato e una voce sbagliata. Soprattutto una voce sbagliata, sì. No, ma per questo ne parliamo, anche perché abbiamo fatto un percorso molto interessante con l'amico che è medico, chirurgo Diego Cossu, che riesce a portare, anche a ridare l'interezza di un percorso a coloro che diventano donne. Però il contrario, sì, il percorso, inverso. Si può fare, credo, anche nell'altro modo, non lo so. Volevo chiamarlo proprio perché mi sarebbe piaciuta la sua consulenza. Alessia, perché non proviamo a cercare Diego Cossu un attimo, se riusciamo a beccarlo? Perché è interessante. Mi ci ha spiegato che tipo di operazione, che non è invasiva, non tocca le corde vocali, ma finalmente quel corpo ha anche una voce femminile. E uno non deve alleggerire per finta e sembrare il solito il transessuale, eccetera, eccetera. La transizione, quello che tu hai detto, è la cosa più importante. Per cui ti ho conosciuto in un modo, in effetti, su un set cinematografico, e mi ritrovo ad avere dopo anni un caro amico adesso. Esatto. Un caro amico. Esatto, infatti mi fa molto piacere essere qua oggi per raccontare non solo la mia storia, ma anche per tranquillizzare chi sta vivendo un percorso del genere. Quali sono state le difficoltà di una persona che come te decide di cambiare sesso e identità? Ovviamente questa non è una trasmissione sociale, no. Però è Radio 24, no, e credo che sia interessante sapere tutto, non solo il percorso vocale, che poi interessa della fisicità e della testa. Che è successo? Certo. Dimmi un po'. Le difficoltà che si riscontrano in un percorso del genere ovviamente riguardano un po' queste sofferenze che tu hai dentro di te, frustrazioni a cui non sai dare una risposta in realtà, e soltanto con una terapia psicologica riesci a capire effettivamente qual è il motivo di tutte queste sofferenze. E se è veramente quello, insomma. Esatto, poi e se è veramente quello, certo. Quindi è un iter, un percorso molto lungo, un percorso credo che non finirà mai, se non ovviamente a livello concreto nel momento in cui tu effettuerai tutti gli interventi, tra cui l'intervento di ricostruzione, nel qualora tu volessi farlo. farlo. Certo, perché poi c'è anche lì una scelta non di poco. Non di poco. Ho degli amici ovviamente che sono tornati, mi piace perché sono sempre state donne, esatto, molto probabilmente. Esatto. Però l'ultimo passaggio è quello più difficile da affrontare. Sì, difficoltà soprattutto poi nel momento in cui tu sei consapevole di ciò che sei in realtà, è affrontare una serie di dinamiche, di situazioni, quindi la società stessa, la famiglia, il lavoro, gli amici. Io ho perso degli amici cari, così come ho perso delle situazioni lavorative per questa situazione, quindi c'è ancora un po' di ignoranza che per tu sei brava, sei bravo, cioè sì, no, infatti la persona è sempre quella, esattamente, per cui vabbè, però credo che tu abbia acquistato qualcos'altro e qualcun altro, sicuramente chi conquisterai adesso sarà per sempre. Esattamente, sì. Tu racconterai la tua storia quando ti presenti, la difficoltà è come, che cosa succede? Cioè, la tua voce, intanto sei soddisfatto di allora, questo passaggio? Io sì, io direi di sì. Io non del tutto ancora, se ti devo dire la verità, nel senso che rispetto ovviamente a prima c'è stato un forte cambiamento, però adesso insomma ancora c'è secondo me tanto lavoro da fare, ancora bisogna stabilizzare un po', perché ho anche dei picchi, no? Dei picchi che mi portano ad avere degli sbalzi. Sì, ma ecco, se noi non ci fossimo conosciuti e avessi la tua fisicità di adesso, sì, è che adesso possono vedere tramite Facebook, sì, e la tua vocalità, avrei sentito un ragazzo giovane con una voce timida, sì, ma da ragazzo. Beh, questo mi fa molto piacere, perché il riscontro all'esterno è molto importante per, sì, io per credo anche riguarda. Chi non sta vedendo Facebook e che per cui ha l'interezza della voce addosso a questo corpo, vedendoti e sentendoti non penserei mai. Bene. Non c'è. Adesso però abbiamo, credo. Posso intervenire un attimo? Alessia. Volevo. Io ho conosciuto Samuele da prima praticamente. Sì. Quindi rivedendolo adesso gliel'ho detto che il cambiamento è stato radicale, ma non si vede assolutamente il suo passaggio dal femminile al maschile. Guarda, però volevo chiedere una cosa: oltre a questi cambiamenti che sono fisici, da un punto di vista psicologico, comportamentale, è cambiato qualcosa in allora, te? Allora, ti devo dire la verità, sì, in alcuni aspetti sì, nel senso che adesso prendo le cose con molto più distacco. Se prima ero una persona che stava lì a pensare al problema e cercava di capire, a quel punto dico, a un certo punto dico, vabbè, non me ne frega niente, vado avanti, no? Quindi un po' il mio modo di vedere le cose è cambiato, però comunque come persona alla fine sono sempre io. Abbiamo in diretta, come se ormai non è solo l'amico della radio, ma un consulente fisso, Diego Cossu. L'abbiamo raggiunto. Okay. Diego. Ciao a tutti, ciao Pino. Perdonami, no, ti abbiamo disturbato perché c'è una situazione. Hai sentito la voce di questo ragazzo? Il suo percorso è l'opposto di quello che ci siamo raccontati quando sei venuto tu. Era una donzella non felice della sua situazione. Ed ha fatto questo passaggio ormonale finora, sì, credo soltanto ormonale, per arrivare qui. E stavamo parlando della sua voce. Tu che cosa senti? La sua... Allora, diciamo che come ho sempre sostenuto in trasmissione, intanto ciao a tutti e grazie per avermi chiamato. Oh, grazie a te. Come ho sempre sostenuto nelle trasmissioni precedenti, la voce corrisponde, è un elemento sessuale secondario e quindi risente tantissimo degli ormoni, maschietto quelli dei maschi e femminuccia quelli delle femmine. Quando si fa un cambiamento radicale di sesso, ovviamente dobbiamo mettere a posto anche la voce. Nel passaggio di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi quello più importante, perché diciamo che il grosso dei pazienti sono male to female, cioè da maschio a femmina, hanno un approccio chirurgico. Invece nel caso del tuo ospite in trasmissione ci troviamo nella parte contraria, cioè nel senso contrario. Dobbiamo cercare di restituire una voce con una frequenza più grave di quella che era quella di una femmina. E questo lo possiamo fare in modo un pochettino più semplice, che non richiede quasi mai l'intervento chirurgico, perché basta bastano l'intervento farmacologico a base di testosterone per accrescere, far diventare più grande la massa della corda vocale. Come abbiamo già detto, la frequenza fondamentale, cioè il nostro tono di voce, è inversamente proporzionale alla massa, per cui quando abbiamo le corde vocali grosse la nostra voce è più grave, cioè ha una frequenza più grave. E questo si può creare farmacologicamente utilizzando degli ormoni maschili, il testosterone, che in questo caso ingrossa le corde vocali. Il nostro obiettivo, l'obiettivo del paziente, quello percettivo, di avere una frequenza fondamentale intorno ai 130-140 Hz, che è percettivamente la voce di un maschile. Qualora il testosterone non riuscisse a ottenere i risultati desiderati dal paziente, allora si può intervenire aumentando la massa chirurgicamente. Ci sono interventi molto semplici, sono iniezioni intracordali o di grasso omologo, che si prende quindi dallo stesso paziente con nessun rischio di rigetto, oppure con l'iniezione di materiale inerte. Generalmente noi usiamo l'idrossillapatite, che è una sorta di pietra micronizzata, che cosa fa? Marsupializza, fa una specie di cisti dentro la corda vocale, aumentandone la massa e quindi ottenendo il risultato desiderato dal paziente. Ambedue queste procedure sono ovviamente procedure molto ben conosciute, molto ben collaudate, a rischio molto basso. Da oggi, vicino all'applicazione Voice Anatomy, c'è l'applicazione di EcoGo, su qualsiasi cosa si clicca e lui risponde. Sei stato straordinario, straordinario, sai che sei anche un musicista, ma i tempi radiofonici perfetti. Cioè, tu sei come Raffaele Morelli per quanto riguarda la psiche, eccetera. Riuscite in pochissimo tempo ad essere rapidi, veloci, concisi, ma soprattutto strutturati così bene che si capisce tutto. Ma non ci posso credere, non mi puoi mettere vicino a Raffaele Morelli, lui è un grandissimo. No, io vi metto molto vicino, invece Raffaele sarà orgoglioso. Grazie. E credo anche tu, perché siete due personaggi che non è la velocità o perché ho pochi minuti, è che in poco tempo è come uno sceneggiatore, vuoi raccontare un film che vuoi fare? Beh, se racconta in due righe, se è bello. Subito, è la storia di un pugile italo-americano dilettante che avrà la possibilità di combattere contro il campione del mondo e diventare lui campione del mondo. Fine, è Rocky, questo è finito. Diego, grazie, sei stato veramente, grazie, credo anche dagli occhi di Samuele, io credo che si sia tranquillizzato non poco. Grazie Diego Cossu. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e soprattutto un grande abbraccio in bocca al lupo alle tue ospite. A Samuele. Grazie mille, molto vicino. Ti salutano Mauro e Alessio. Chiaramente, come tutta la redazione. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao grazie. Diego. Ciao. Beh. Vedi, notizie cui... confortanti, sì, questo sì. Per quanto riguarda la voce, ma questo è Voice Anatomy, è vero, certo. Che è anche Anatomy, ma Anatomy, la voce è fondamentale, perché poi è l'espressione che arriva prima, la fisicità c'è tutta, sì. poi c'è la voce, poi sono affari tuoi, nel senso che vabbè, quello è si chiaro. Interviene, e poi sono altri momenti. Altre trasmissioni, sì, assolutamente. Posso soltanto parlare con te, soltanto per un pizzico di curiosità, che c'è sempre una piccola curiosità morbosa, no? In chi fa queste domande. E soprattutto capire la storia, invece è un percorso, come diceva Alessia, giustamente psicologico importante. Assolutamente è sì. È tutto lì. Si inizia da lì. Lunga, da tanto tempo. Quanti anni hai adesso? 30 anni? Adesso 30 anni, sì, sono due anni, quindi che ho iniziato. A parte che cura fai, perché te mantieni pure il gioco, io capisco che pillole prendi. È l'elisir in realtà. A questo punto a livello farmacologico. C'hai ragione, è vero. Questa cosa l'ho notata anch'io. Sì. Per favore, poi la tua voce diventerà un rutto però. Esatto. Effettivamente. No, non voglio fare ormoni di più testosterone, altrimenti veramente circo doppierò. Perdonami, non intervengo mai, ma io una domanda gliela farei. Ecco, dimmi, Mauro, che siamo comunque amici. Mauro Meconi. Adesso sei felice? Adesso sono felice e finalmente posso dire che ho cominciato a vivere, quindi tutto di guadagnato. Assolutamente non potrei mai tornare indietro, mai. Ti fanno tanti complimenti, grazie, per il tuo grazie coraggio. A tutti. Una persona di Gian dice: caro Pino, ma che cosa stai dicendo? È una voce perfetta. Oscar Giannino è molto peggio. Non ce ne voglia Oscar, che ha una voce leggera, per questo. Allora, niente, grazie. Siamo arrivati, ecco, vuole essere un piccolo passaggio, ma ci rincontreremo sicuramente. Qualsiasi cosa, tu sai che ci sono dei professionisti pronti ad accogliere le tue richieste, ce ne sono tanti. Noi abbiamo Diego nel cuore e nella nostra library, e per cui qualsiasi cosa sai a chi rivolgerti, sei molto amico di con Mauro, loro, sì, di sì. Mauro, Alessia, eccetera, ma ti richiamiamo e vogliamo vogliamo sapere come certo, prosegue il tuo percorso. Volentieri. E eccetera, eccetera, eccetera. Io per adesso restiamo così. Vi ringrazio a tutti per questa opportunità e spero insomma di rivedervi presto. Grazie a te, perché non è stata soltanto un'occasione, normalmente uno si aiuta anche a livello psicologico a parlarne. È vero. A voce alta. E fare informazioni. Sì, un outing, in questo caso è informazione, esatto. Che ci sono tante persone magari che sono come te. Esatto. Grazie. Grazie a voi. Samuele, grazie a voi. A tra pochissimo con Voice Anatomy, è un'altra grande sorpresa prima di un grandissimo attore. A tra poco. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono le 15:47 primi e 21 secondi dopo questa bellissima storia di Samuele, prima di accogliere al prossimo blocco un grandissimo attore che è Andrea Sartoretti. Abbiamo una persona con la quale abbiamo parlato durante la registrazione, qualcuno tramite Facebook avrà visto, molto particolare, ora potete sentirla chi non la vede. Ed è Emanuela Petroni, che è sì, un'attrice, eccetera. Raccontati un po', Emanuela. Innanzitutto buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sì. Che dire, sono qui a Roma da un po' di anni. Sono nata a Rieti, una piccola cittadina veramente bella nel verde. E lì ho apprezzato e naturalmente appreso tutto quello che poteva essere la vita rospante. Guardandoti, si capisce adesso in questo momento... È radio e non è televisione, ma io credo che Mauro debba venire per... Tu hai una fisicità, visto che Voice, ma anche Anatomy, hai una fisicità importante, anche fai l'attrice, ma poi ti chiederò per quale motivo e come utilizzi la tua voce per l'altro tuo mestiere parallelo, eccetera. Tu fisicamente sei, quanto sei alta? Beh, io poco, 1,62, 63, forse 65 con i tacchi. Ecco, 1,65 con i tacchi. Quanto porti di reggiseno? Questa è la decima. Cioè la decima volta che te lo chiedono o è la cioè è la decima. È la decima, cioè, naturale, perché io comunque lo sottolineo. Sì, no, assolutamente non si vede perché c'è la sua fisicità. Ma è un problema. Cioè, adesso vorrei richiamare Diego Cossu ma lui non si occupa di senologia. Cioè, tu prendi le situazioni di petto sicuramente, ma è un problema importante. Quando devo passare nelle porte, a volte, soprattutto negli ascensori, quelli stretti. Certo. Lì è un macello, soprattutto quando sono stretti e c'è un'altra persona all'interno che può rimanere soffocata. Il problema è quello. Nelle frenate non hai problemi. No. Vicino a te hai un signore che ti accompagna anche agli spettacoli, perché tu sei Mistress. Sì, Mistress è un personaggio molto simpatico, ma comunque sì, che prende Mistress sempre è una donna dominatrice, no? Sì. E ci sono molti uomini ai quali piace essere dominati. Certo. E tu lo fai con la tua voce. Con la voce in particolar modo, perché basta un cenno proprio di... Così è un po' voce dittatoriale e andiamo subito a. Ma tu che fai? Italiani, inginocchiatevi, com'è la voce dittatoriale? Italiani no, però ad esempio Paul, in questo caso, sì. Paul, giù, a cuccia. Ecco. Ecco qua, vedi, a cuccia. Ma fa pure il cane di Mauro questo, però no. Vabbè Paul, ma non fa niente Paul, ma adesso voi non potete, cioè lo vedete tramite Paul a cuccia. Vabbè, ma... Ho capito, ma succede nient'altro, cioè è fetici, sono il dolore. Sì, Anatomy molto questa situazione, naturalmente prende il corpo in totale, perché ad esempio ti posso sotto prendere... controllo, insomma, non certo. È mai eccedere, insomma, perché no? È un gioco di ruolo, il nostro non è mai per far del male, ecco, anzi esatto. Nasce da, ecco, questa situazione, scusate, ogni sì, tanto cade la cuffia alza. Perché c'hai... Ogni tanto mi così. Si alza, non si può sentire, ma comunque, vabbè. Togliamo questo. Esatto, togliamo il cappellino che tanto non serve, anche se c'è la televisione. Per cui tu la voce, sei un'attrice, magari impari ad usarla in un certo modo. Sì, sì, sì. E quali sono gli ordini? Che sono questi gli ordini che dai, ma no, tu ricevi per appuntamento? No, no, assolutamente. No. È libero su chi passa, citofono. Facciamo questi spettacoli così. Posso fare naturalmente un piccolo accenno, una cosa importante. Fallo, facendo queste cose all'interno dei locali, quando ad esempio c'è una cena, no? Ci sono le cene aziendali oppure le cene politiche, abbiamo conosciuto personaggi simpaticissimi ma anche molto famosi, certo, nella politica e non Non facciamo nomi, no, no, assolutamente raccomando, non posso, visto che quello che stai per raccontare immagino che sia meglio, simpatica. È una cosa simpatica, insomma, che succede? Ti vedono dare degli ordini, ci vedono in questa maniera e quindi ci ingaggiano per fare delle feste private, ad esempio, ecco, feste anche semplici, che posso dire, ma non goliardiche, addio al celibato, compleanni, che addio al celibato, però sempre nella situazione spettacolare, perché ad esempio noi questo facciamo e quindi di conseguenza ci commissionano, ad esempio proprio su copione, cioè ci dicono in questo punto dovete fare questo, questo, quest'altro. In particolar modo un politico, però non voglio fare nomi, no, certo, ti prego, ecco, ci ha commissionato un rapimento finto per lui stesso. Lo eccitava. È una cosa particolare perché lui era la sua festa, no? No, no, da solo, da solo. Io dovevo, in poche parole, insieme a lui e altre persone del mio staff, rapirlo. Perché abbiamo attori, attrici, anche trans all'interno, simpaticissimi. Sì, ci abbiamo tutto. Tutto, non ci facciamo mancare niente. Birra, coca, caffè, borghese. Ci abbiamo. Non ci naturalmente, come ho sottolineato che prima, che sito avete? Attori. A chi tocca insengrugna.it, com'è il vostro sito? Anime di carta.net. Anni di carta. Anime. Ah, anime di carta.it. .net. Scusate, allora segnate, andate, ve l'andrò a vedere anch'io questo anime di carta.net. Per cui anche situazioni private, per cui la private, mistress è vera, certo, e propria. Certo, ad esempio certi schiaffoni con la mano oppure calci, però naturalmente io cerco di non far mai male perché è, ma ecco, lo schiaffo teatrale. Certo, è teatrale, ma magari uno ti chiede il dolore. Cioè, e quello non è, cioè, chi ha capito il gioco goliardico vi chiama per le feste, certo, al celibato, eccetera, eccetera. Ma chi non l'ha capito, come in questo caso, vi chiede. E poi che ne sai la prestazione dove arriva? Ma io lo faccio presente dall'inizio, naturalmente. Certo. Si tratta proprio di un contratto lavorativo giornaliero, come un attore. Cioè, sì, io ad esempio metto la situazione proprio anche per togliere le responsabilità, è normale. Certo. Quindi in questo contesto riprendiamo quello spettacolo su ordinazione del rapimento finto, che è una, sì, cosa che a me fa veramente ridere, sì, perché è trash al massimo. A me fa paura. Ecco, a noi ci ha commissionato questa situazione così stramba e naturalmente noi dovevamo essere vestiti come lui ci richiedeva, tutti in pelle, certo, con zip, guanti in latex e cose di questo calibro. Di questo tipo. Cioè, rapinatori fetish, sì, cioè non si è mai visto. E che gli dovete fare? In questo settore, in particolar modo, Paul faceva invece il master, certo, cioè lui doveva menargli. Di conseguenza non voleva degli slave, ma soltanto degli persone, schiavi, sì, che andavano con catene per legarlo, sì, e frustarlo con queste cose giocattolo, perché realmente se senti, ma lui voleva più dolore o no? No, lui voleva soltanto una cosa così di divertimento. Ah, goliardica. Sì. E il bello è che lui si filmava pure. Certo, beh, questo è anche il piacere. Nessuno è andato mai oltre, no, chiedendo di prestazioni sessuali. Qualcuno ha chiesto, però non è la mia caratteristica, anche perché, sì, io sono una mistress un po' giunonica, materna più che altro, no? Sì, nessuno voleva che tu facessi la sua tata, la sua balia. Sì, sempre con gli schiaffoni. Sì, ma sempre gli schiaffi, ma non è possibile, non c'è nessuno che ti ha chiesto un abbraccio, no, materno. Un abbraccio materno, sì, altre, sì, persone mi hanno chiesto di tipo far finta di essere una suora in carne, beh, con i baffi, quindi ho dovuto mettere come i baffi. Come una finti, suora in carne con i baffi? Ho dovuto mettere i baffetti finti per far vedere quelle suore proprio in un tempo, i capelli tutti quanti dietro con una specie di cuffia nera. È stipendiato Paul, sì, comunque tutto giornalmente, sì, giornalmente. Insomma, signori, eccoci, se volete essere schiavi di una portatrice sana di seno e del suo gruppo anime di carta.net, feste goliardiche, è voce, ma la voce l'avete sentita, è questa. Mi divertiva molto anche l'anatomy di tutto ciò, e una volta tanto possiamo sdirazzare leggermente, perché c'è grande simpatia, grande, grazie, ironia in tutto questo. Va bene, Paul, rivestiti per l'amor di Dio, e noi invece andiamo in pubblicità, che è la pausa lunga questa? E c'è il GR, c'è Sartoretti Andrea che già è arrivato, io vado a sentirmi gli altri ragazzi, a tra poco, Voice Anatomy. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il MotoGP che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio, e tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30. C'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Siamo una squadra fortissimi. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Voice Anatomy, sono le 16:07, 18 secondi e ci ha raggiunto dopo questa lunga pausa, ma importante, soprattutto dopo una parentesi divertente e ironica con la nostra mistress. Abbiamo un attore a tutto tondo. Questo grazie anche all'amicizia e alla stima che nutre nei confronti di almeno di uno dei nostri autori, e l'altro non lo conosceva, però c'è sicuramente sì. Avvererà anche in quel caso un contatto importante artistico. Lui è Andrea, lo dico soltanto il nome, non dico nient'altro. Io, una cosa che mi diverte molto è che tu nasci a New York, Sartoretti. Allora, intanto grazie. No, grazie a te, grazie di avermi invitato, perché appena sono arrivato mi sono immerso in questa atmosfera che c'è in redazione, ma ragazzi, veramente è divertentissimo. Io sì, sono nato a New York assolutamente per caso. Nel senso, mio padre lavorava là, mia madre era incinta. E poi un grande successo è stato invece questo. Vai Alessandro, romanzo criminale. E lui? Lo conosci? È il pischello che sta in cella con me. È uno giusto. Giusto per far che? Per fare una cosa che c'ho in mente. Che esce poi in mente. Di torna dentro, te l'ho scordato. Te sta scadendo il permesso. 4 anni e mezzo matti quando bastava. Oh, io rimetto in pista. Mette su una batteria. Te, lui e chi? E te. Dove sta là? Tanto si è rotto il cazzo e passa la vita. Ricominciamo da capo. Iniziamo con lo spaccio e poi vediamo. Spaccio su Roma. Se abbiamo un'altra piazza. Che a Roma ci arriviamo dopo. Sì. I soldi per cominciare? I soldi non sono un problema. Ha visto il Porsche. Omaggio del secco. Che non vede l'ora di finanziarci. E che vuole in cambio? E che vuole? Quello che volevamo tutti. Solo quello che volevamo tutti. Ma insomma, quello che vogliamo tutti. Sei nato a New York, la tua nemesi è stato diventare un grande protagonista. Si sentiva da questa calata. Si sentiva un po' che parlava. Era più verso Seattle come calata. Sì, però, perché Seattle è un po' come San Giovanni. Esatto, sta Roma Nord, no, quello è più il Flaminio, eccetera. Poi vedi, io ho degli autori un po' autoreferenziali, no? Non Alessia Navarro, che va in punta di piedi l'attrice, ma insomma fa l'autrice. Qui invece Mauro Meconi ha montato una scena dove era lui con te. Capito? Ha fatto bene, però ha fatto bene. Io a quella scena voglio molto bene, perché è stato molto divertente quella scena. Subito dopo che ci siamo rincontrati in chiesa, insomma, una scena dopo che io il bufalo uscivo dalla galera, insomma, c'è stato questo incontro e poi siamo andati a far finta di rimettere in piedi la banda. E no, è una scena a cui voglio molto bene, e diciamolo, Mauro Meconi è stato bravissimo. Che è stato bravissimo. Poi doppiato in realtà in quella da scena. Mauro Meconi, da, una, da Mauro Meconi. No, no, assolutamente presa, presa diretta, però è una scena importante. Mi ha detto: no, è importante, non perché ci sono io, è che c'è Andrea. Vabbè, c'erano almeno altre 6-7 importanti dove non c'era Mauro. Ma comunque, vabbè, dato, devo accettare anche questa situazione. Da quando ha vinto anche lui il premio Ennio Flaiano come miglior trasmissione radiofonica dell'anno, capisci? Hanno voluto mettersi anche in vista. No, eccolo, guarda, si autocita anche su Facebook. Vabbè, lasciamo stare. Arrivano già i primi grandi complimenti e c'è una bellissima mail anche. Ti ho scritto tanto e hai sempre letto. Grazie per me, sei un amico. Io non sto molto bene e mi dai tanto come date. Vabbè, anche questi. Grazie. Si fa compagnia anche alle persone che non stanno bene. Poi insomma la radio è sicuramente un veicolo, secondo me, fra i più evocativi insieme a un bellissimo libro, e soprattutto sentire le voci. Dicevo queste cose di New York. Lui nasce a New York perché mamma newyorkese, no, papà, no, assolutamente viaggiatori, no, mamma sarda. Come Massimo Troisi, emigranti, no, viaggiare. Sì, esatto, Scusa, grande Massimo Troisi, sì, una delle sue migliori, è vero. No, non io no. Viaggio, no, no, mio padre lavorava in quel momento, stava negli Stati Uniti, mia madre pure. Lavoro pulito, tranquillo, lavoro, no, pulito. Dopo aver sentito un pezzo di Romanzo Criminale dichiariamo, esatto, che insomma la famiglia, esatto, di Andrea Sartoretti, sì, è una famiglia, sì, sì, tranquilla. È una famiglia molto tranquilla e sono nato lì e basta. Ma è molto semplice, senza, non quanto sei stato a New York? Sono stato credo un paio di giorni. Adesso sembra un po' il doppiaggio italo-americano, per cui tu che cazzo l'abbiamo avuto il doppiatore di Joe Pesci, così bella una, sì, sì. Robert De Niro, quell'italo americano. Vabbè, ma ci siamo cresciuti con quelli là. Io è incredibile, credo... vi siete inventati una lingua, cioè voi siete riusciti a, siccome avevano bisogno di una lingua che non fosse né napoletano né siciliano, esatto. Vi siete inventati il sud, lì il sud, cioè è stato bravissimo, lì a Mendola, a Ferruccio Mendola, a fare questa sporcatura già su Sozzo, su Un uomo da marciapiede. Lì proprio è stato il cambiamento del cinema. Il cinema dà i protagonisti belli. Se pensi che il laureato doveva essere Warren Beatty, lui disse no e ha preso questo ragazzetto nano, brutto e anche un po' sgorbio che si chiamava Dustin Hoffman. Per cui il coraggio del cinema americano nel cambiare, per cui dalla bella voce, sì, si è arrivata a una voce che deve essere più attaccata a quel corpo, perché non era più i fini dicitori col birignao, ma bisogna sporcarla. E lì è stata questa bellissima invenzione che poi ci ha creato difficoltà un po' a tutti. Come dicevi prima, forse hanno cominciato a fare delle voci che dovevano assomigliare alla faccia, sì, alla faccia, alle rughe, alle espressioni. Sì, anche se non erano uguali all'emissione vocale di De Niro, di Al Pacino, perché quella più uguale a Al Pacino è quella che ha Giannini, Giancarlo, è identica. Sì, capito, quelle risate, eccetera. Però Ferruccio è riuscito a proprio a sposarle, sì, sì, assolutamente, in pieno. E tu ti sei ispirato un po' a quella strada di una lingua, è romano questo, ma si capiva. Sì, sì. A differenza di Gomorra, sì, sì, sì, sì, dove non parleremo anche con i nostri amici Marco D'Amore, eccetera, certo, dove veramente lì c'è bisogno del sottotitolo, anche se l'idea arriva tutta. Sì, sì, anche lì, anche durante il romanzo, comunque Mauro se lo ricorderà sicuramente, è arrivata a un certo punto, dopo 3-4 giorni di set, è arrivata dall'alto, ricordatevi che questa deve essere per tutta l'Italia e se parlate così vi capite solo tra di voi. Però insomma voi avete sdoganato in qualche modo il dialetto puro, perché sì, Sordi lo faceva, cioè, ma il romano si capisce un po' in tutta Italia. Però a voi vanno creato grossi problemi, cosa che non hanno fatto poi dopo per Gomorra, per esempio, perché hanno capito che comunque una serie, se è di successo ed è girata bene, in grande mano di Solli, ma non dimentichiamolo assolutamente, la sdogani in tutto e per tutto. E soprattutto hanno capito che se racconti quelle storie là, la lingua deve essere quella là. Ah, beh, certo. È quella la cosa importante. Se a Lecce si parla leccese o pugliese in qualche modo, e arriva, se in c'è la verità. È molto bello perché stiamo dicendo tutte cose che dovrebbero essere normalissime. Perché però è bello raccontarsi, perché ogni tanto c'è questi limiti, no? Non si capisce, è un siciliano, sì, ho capito, ma se c'è la verità, che però l'attore quello deve fare, arriva totalmente. Dobbiamo salutare te, no, questo blocco è finito, ma ne ricomincerà un altro. Va bene. E come a mille ce n'è, questa favola è finita, ma un'altra ne ricomincerà. E il cantafiabe dirà: ci sentiamo doppiati, ciao, a fra poco. Voglio Voice Anatomy. Bentornati in Rapidi, subito dopo privato, no, era privato quel messaggio, ma sono altri invece pubblici. Se vi sente Cruciani, questo si riferiva a prima quando è entrata la Mistress, che hanno visto la decima di Reggiseno, forse te lo trovi attaccato sul vetro della regia, trattenuto dalla sicurezza che prova ad entrare. Vabbè, questo è Cruciani che di qui fa la zanzara. Stavamo parlando della voce, Alessia ha fatto notare il cambiamento vocale di Andrea, che sì, era ogni tanto sui fiati, ma erano fiati timbrati, erano fiati che raccontavano una storia, non erano fiati di gola perché non sapeva dove andare a recitare, ma così si doveva fare. Guarda, sì, io in realtà poi non è che non parto dalla voce, nel senso che secondo me la voce è anche una conseguenza nel lavoro che faccio io, certo. Sì, esattamente, io me lo sono immaginato, io volevo che fosse più pesante, infatti ero anche più pesante, ero un po' più gonfio, più grasso, avevo mangiato pasta e patate per tanto tempo. Ah, ti sei ingrassato sì, apposta? Volevo essere più pesante, Jack LaMotta. Non tanto grasso, perché alla fine no. non è che fossi, però volevo essere un po' più pesante, volevo essere lento, volevo essere... Insomma, io sono partito dall'idea che un numero di telefono all'epoca c'era, ti ricordi il sì, disco? Il disco. Per cui per fare un numero di telefono ci volevano 10 minuti e quelli erano i tempi. Per cui anche la voce doveva essere tutto più lento. Così me lo sono immaginato e poi alcune cose se sono venute in realtà sono venute un po' anche per fortuna, insomma, da sé. Beh, fortuna quando hai un manico così importante, una sceneggiatura scritta in quel modo. Non tutti gli attori all'altezza, insomma, il 9 decimi all'altezza, a parte insomma Fiero Locchio, a parte Mauro Meconi, il resto che comunque è qua. È qua, è vivente. La gente non lo vede perché vede noi in questo momento. Ma in realtà lui è seduto sul tavolo. Esatto, per questo mi sono permesso di trattarlo male. Per cui c'è stato questo bellissimo lavoro che veramente ha sdoganato il dialetto puro e semplice all'interno di una fiction come Romanzo Criminale, venduta poi in tutto il mondo. Sì, e soprattutto secondo me ha sdoganato una cosa: non è importante che si capisca tutto, ma il suono. Assolutamente. E come dicevi prima tu, la pesantezza, cioè voglio essere uno che dice una cosa e quella resterà, la devi dire con lentezza, con pesantezza e con grande intensità. E soprattutto se ovviamente se stiamo parlando con un dialetto romanesco e uno spettatore di Padova magari si perde anche solo una parolina, in realtà ha capito benissimo quello che sta succedendo ed è più bello così. Assolutamente sì, ma dove hai cominciato? Quando hai cominciato? Quanti anni hai intanto, Andrea? Io ne ho 44, come no? Certo, 44 è un numero divertente, ci ricordo tutti la canzoncina. Anzi, 45, diciamo la verità, ottobre 9 ne faccio 45. Sei un newyorkese di 45 anni. Sono un newyorkese del 71. Quante lingue conosci? Bene, conosco... L'inglese lo parli bene, spero. Sì, abbastanza, però in realtà è il francese la mia lingua. Sembra strano, ma guarda... È il bufalo del romanzo criminale. Il bufalo qui parle français. Com'è in Allora, posso... Sì, no, fai un esercizio di stile, ti prego. A parte l'esercizio di stile, io voglio fare veramente un grande complimento a tutti i doppiatori italiani. Non so se è stato già detto, ma diciamolo e continuiamo a dirlo, che sono i più bravi del mondo. Perché io ho visto... Romanzo criminale in francese. Io ho visto Romanzo criminale in spagnolo. È una cosa libanese. No, io c'è una battuta del bufalo che dice: sì, però libanese. A chi noi stiamo in Naples, stiamo in Roma. No, è una cosa che non si può sentire. E i francesi, come doppiano i francesi, è una cosa... Davanti alla faccia, sempre troppo. Infatti, davanti. Dicono com'è? Sempre che vedi i francesi come sono avanti, anche culturalmente tutti i film sono in originale, uno va al cinema e tutto in originale. No, è tutto in originale perché non sanno doppiare. No, ma poi ce l'hanno, sono tutti doppiati, soltanto che magari danno la possibilità più sale di metterlo in originale. Perché no, è giusto. Grande prova democratica, però non è che doppiaggio non è che blocca... Lo studio delle lingue, abbiamo detto tanto da questi microfoni. Ovviamente era una battuta. No, però è vero, è così. Se tu pensi che Woody Allen ha ringraziato l'Italia e soprattutto Oreste Lionello di renderlo un attore migliore, perché lo veicola, se fate un doppio audio in tutte le lingue, nei film di Woody Allen ci sono almeno 4-5 lingue. Divertitevi a sentire com'è lui in originale, com'era il nostro grande Oreste Lionello e com'era in Francia, in Germania, in Spagna. Però è vero che gli spagnoli sono sempre... Sì, poi sembra... Alessia lo sa perfettamente. Il messicano sarebbe stato com'è? Aquí no estamos. Aquí no estamos en Naples, estamos en Roma. Aquí no estamos en Nápoles, aquí estamos en Romita. Ahorita. E poi mi sono accorto, sì, il doppiaggio spagnolo è come se vi capita di andare in aeroporti spagnoli, gli annunci del passeggero là, quando che sembra che in realtà sembra che stanno facendo sesso. Soprattutto, è vero. Sì, sì. Com'è Andrea? Ma dicono tipo, adesso non mi viene, però è tipo speriamo se il passeggero, ora non lo so. Vino. Vabbè, il suono, sì. El vuelo a Z 52 80 90 Z, e poi soprattutto fanno destino, una pausa di 4 minuti. Malaga. E tutti dicono, questi stanno, ma che stanno a fare? È bellissimo, Andrea. Fateci caso, andate negli aeroporti spagnoli e divertitevi ad ascoltare gli annunci all'aeroporto. Sono una cosa più sessuosa. Altro che voglio continuare questo esercizio di stile, perché io impazzisco sugli esercizi di stile. È bello. Per cui invece in francese buffalo com'era? È un po' più elegante, non è? Ah, no, non no, perdeva no, quella no, forza. Non me lo ricordo, però. Missione per Napoli, non è a Roma, in realtà non lo puoi fare, non lo puoi, infatti non si poteva sentire. C'è un'eleganza di fondo. Sì, però si può fare. Noi il doppiaggio, quando troviamo questi film in slang, perché tu trovi Fulmonti, Fulmonti è uno slang, un cockney inglese, non si capiva neanche chi conosceva l'inglese come madrelingua, non lo capivi, per cui dovevi sporcarlo con il modo di il linguaggio, il modo di buttarlo, come quello dicevi prima su Ferruccio Amendola. Si è trovata una lingua che faceva capire che quello comunque era uno sporco che veniva dal sud. Non era sporco perché veniva dal sud, ma era un uomo del sud, ma dovevi fare né siciliano né napoletano. Si è trovato il modo di buttare la voce. O i neri, quando doppi un film dove ci stanno queste bande eccetera, devi raccontarlo in un certo modo e deve arrivare quella rabbia, quella... È vero, anche l'opposto, no? Perché certo, quando c'è il doppiaggio magari dei film francesi, anche l'italiano cambia, segue certo, la però l'onda. Devi essere come loro, a parte loro nei film sono sempre certo, te l'ho detto. Ma è così, ma certo che è così. Il personaggio in francese si chiamava Fier de l'E. Ah, Fier de l'œil, Fier de l'œil. Fiero l'occhio, Fier de l'œil. Il mio era le buffle, le libanais, le buffle, le froid. le dandy. Dandy è sempre Dandy. Il dandy, le dandy. E scrocchia zippi si chiamava. Rompelos. No. Rompelos. Non me lo ricordo, però anche lì c'è tutta non me lo ricordo. No, ti posso chiedere una cosa? Sì. A me mi hanno sempre detto questa leggenda, però forse tu la sai, non so se è vera, che in realtà Ferruccio Amendola, quello che fece, si avvicinò al microfono. Non lo so se sono storie. Se mi sì, no, è così. Che è così. Prima si portava la voce anche a doppiaggio, insomma, dovevi lanciarla. Lui gli piaceva certo tantissimo. Ah, però ti è venuto. Beh, guardatevi allora, Rocky in francese o tedesco. Oddio! Lì Rocky 1 Adrien! Dovete sapere che Rocky 1 era Gigi Proietti. Però. Sì, assolutamente. Non bisogna dimenticare lì la grande interpretazione di Gigi, che lo fece un po' nasale, un po' quasi romano, ma non romano. Tartaruga. Sì, è vero. Questo accappatoio mingoffa. Resta in città, Adri, resta. Adriana. Era così, è mentre vero. Il 2 era Adrian, già. Però nulla da eccepire su Amendola, nulla da eccepire del nuovo doppiaggio di Stallone da tanti anni ormai, che è Massimo Corvo, che ha la stessa identica voce. Però è vero quello che dicevi tu, sì, Ferruccio utilizzava questo falso portato, non avendo una voce molto potente ma molto caratteristica. Lui si avvicinava molto al microfono, lo sto facendo anch'io, con avverto Alessandro, se no sbarelliamo. E lui era: va tutto bene, ok? Ah, ok. Va tutto. Perché sembra poi di che sputi, sì, un po'. Va tutto bene, è tutto finito. È tutto finito, Ned. È tutto finito, Ned. Era il finale di Revolution di Al Pacino, per cui è tutto finito, Ned. Ehi, sì, non sai niente, va bene. Ehi, lascia stare. Non era: ehi, lascia stare, ok. Esatto. Era un portato più leggero, insomma, era in colonna separata e vicino al microfono, però lo sapeva utilizzare. Sapeva che la sua voce reagiva in quel modo, i tecnici si regolavano di conseguenza, però come dice sempre Claudio Amendola, a me quando mi stillava mio padre era come se mi stillava Al Pacino, Robert De Niro, non lo prendevo mai sul serio. Un giorno ci vorrò riparlare. Senti, ma da dove è cominciato tutto però? Tu vabbè, torni da New York. Intanto, torno tu nasci a New York, è già sta cosa. Vado in Francia. Cioè, c'è scritto New York sulla. Io ho proprio com'è che diceva Verdone? Ma andata questa. Tu c'hai il passaporto, è scritto nato a New York. E io c'ho, la carta verde. Io diciamolo, ho anche votato. Anche votato. Hai anche votato New York. È stato molto divertente. Non hai votato qui a Roma? No, ho votato in ambasciata. Sì, in ambasciata. È stata un'esperienza molto divertente per un italiano, perché certo, è ovvio che io di americano ho solo il passaporto. E sono andato perché non mi volevo perdere l'occasione di poter votare per la prima volta un presidente di colore. Era una cosa che tra l'altro sposava anche le mie idee in quel momento. Per cui sono andato all'ambasciata americana che sta a via Veneto. Mi ha dato la penna, adesso neanche mi ricordo, l'absentee vote, non mi ricordo esattamente come si chiama la schedina elettorale. Siamo rimasti un paio di minuti a guardarci, perché io aspettavo che mi indicasse dove una cabina chiusa, nascosta. Certo. E lui continua a guardarmi. Io a un certo punto gli ho fatto: ma dove voto? Dove? E lui mi ha guardato: ma vota dove ti pare. Come a me frega niente. Sì, nel senso che io mi aspettavo una cosa, no, che noi ci dobbiamo nascondere. E invece loro è spirito anglosassone. Io mi fido di te, non penso che tu chissà che cosa fai. Per cui mi sono seduto su un tavolino qualsiasi, ho votato e gli ho dato la stessa cosa che ho detto l'altra settimana a Frank Merenda a proposito dei venditori, quando all'estero si mettono i paesi anglosassoni, cioè si fidano di te, per cui sì, non devi dire buongiorno, senta mi scusi, io sto vendendo una cosa ma è ottima. Qui invece partiamo al contrario, tu mi stai rubando e vuoi vendere una sola, non è vero, vattene a casa. Esattamente. E invece noi partiamo sempre dalla colpevolezza, esatto, dobbiamo dimostrare l'innocenza. Dovrebbe essere il contrario. Certo. Non siamo garantisti, no, assolutamente. Purtroppo no. È vero che noi ci mettiamo 20 anni per dare un anno a uno, in America ci mettono un anno per darne 20, è un po' diversa la cultura della giustizia. Er Bufalo, così crudo nel romanzo criminale ma così simpatico in radio, ma nella vita no, però no. Nella vita sono una cosa insopportabile. Veramente. Sei sposato? Io ho una meravigliosa compagna. Aspetta un attimo, Mauro mi suggerisce delle cose che non si sa. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di quest'altro blocco, tanto devi rimanere altri due blocchi con noi. Ma guarda, ma è veramente un gran piacere. Assolutamente, anche per noi. Tra pochissimo, Voice Anatomy, vi aspettiamo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, gli ultimi due blocchi insieme prima di passare la linea a tutti i convocati e sapere i risultati, che non so e non li voglio sapere. Insomma, me li spizzo. Tu segui il calcio? Io non seguo il calcio. Ma dai, da quest'estate. No, va benissimo. In Italia mi guardo e fanno sei newyorkese. Sì, no, mi guardano strano. È vero. Cioè, qualcuno vuole quasi menap perché non seguo il calcio. Sì, ma tutto però... il Bufalo che non è tifoso della Roma o della Lazio, eccetera. In realtà mi piace molto il calcio, seguo le partite, le guardo. In realtà più la Champions, il campionato italiano meno. Ma torniamo al campionato però... tuo di vita, vai, quello diciamo... dell'attore. Con Stefano Solli, ma hai girato anche un grandissimo film che è ACAB. Sì. Sì. Dirti come ti trovi con Solli, ma è un eufemismo, è una stupidaggine. Non lo diciamo. No, sì, viene da sé. Viene da sé davvero. Sì, è un fratellino, ci vogliamo tanto bene. Beh, sì, io credo che fra grandi professionisti uno ci arriva. Mauro, hai preparato? Ah sì, ecco, parlavamo di una simpatia tua che esce fuori, che è uscita fuori quando, nelle domande che ti ho fatto, poi siamo andati a fine su un esercizio di stile vocale che è uno sketch straordinario. Grande simpatia e grande bravura nella comicità, ma tu sei stato anche un personaggio importantissimo di un'altra serie cult italiana, che è Boris, come no, dire una... Ma quello che vuoi, abbiamo tutto il tempo del mondo. Uno dei tre sceneggiatori. Merda. Sì, sceneggiatore di merda, come attrici cagna. Poi abbiamo avuto Francesco Panofino, certo, che tu sai, un grande amico, un grande collega, però lo sceneggiatore... Abbiamo un pezzo tratto da Boris, dove è lo sceneggiatore di merda. Prego Alessandro, grazie. Spirito di Machiavelli, tu come la chiuderesti questa scena? Basta, dai, basta con sta cosa. Oh, si muove. Che Come si muove? Si muove, si muove. E che dice? Aspetta, aspetta. F. F. Oh. 4. MP4. Genio. Chiudi solo il basito. E chiedi un po' la prossima scena. Spirito di Machiavelli. Dai, dice Lopez che dobbiamo fare sta cosa scritta ad hoc. Oh, ai Seli per i tutti c'è il passaggio dei Ricciole. Quindi per sta clip vedo un'ora da questo momento. Vedo un'ora da questo momento. Dice il dottor Corelli guardando l'orologio. Stacco. Facciamo quello che possiamo. Facciamo quello che possiamo, signora. Il dottor Corelli guardando la madre della paziente. Stacco. Queste poi te le monti tutte. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tempo un quarto d'ora e abbiamo fatto. Tempo un quarto d'ora e abbiamo fatto, signora. Ah, stacco. Passo. Lo sceneggiatore che scrive all'impronta quello che gli dice una persona. Sì, sento il dialogo vicino, allora lo riportava fedelmente. Che serie meravigliosa, veramente. Sì. È molto per addetti ai lavori, nel senso chi conosce bene l'ambiente ride un po' di più, sì, ma è stata così interpretata bene, caratterizzata bene da tutti, non ce n'è uno che uno dice, sì, beh, sì, ma quello... È stato molto divertente e secondo me è ovvio che chi è del mestiere ride un po' di più e si diverte un po' di più, ma in realtà è stata amata anche da chi non fa questo mestiere, da morire, certo, perché racconta l'Italia. È l'Italia, è tutto quello che succede su quel set. Se può fa. Dove succede in tantissimi tutto. Set. In realtà è quello che succede in ufficio, al Parlamento. Assolutamente sì. Per cui molte persone si sono riconosciute in questa storia che si svolge in un set, ma in realtà racconta l'Italia. No, ma abbiamo un microcosmo straordinario. Sì, Francesco Panofino ha trovato quella chiave. Sì, è un po' così, no? Quella voce sgraziata, ha tirato fuori quella voce ingolata che non è certo quella che utilizza per fare George Clooney, il disgraziato, capito? La cagna, questa cosa meravigliosa, tutte cagna, guarda che io non maledetta lo so fare, però no, ma lui con quella voce sua gli si strozzava in gola. Sì, e lui ha fatto poi qui, ci ha rifatto Forrest Gump, un pezzo, ci ha fatto lacrimare a tutti. No, Francesco Sordino, ma credo vi sia divertito. Quante serie sono state? Tre serie? Sono state tre serie, anche lì doveva nascere una quarta, ma in realtà gli autori hanno preferito... Rimaniamo così, certe sì, volte, perché no? Hanno perché detto, se non la fai scemare... Assolutamente. Bisogna avere il rispetto del pubblico, per cui se le idee forti sono venute per tre serie, facciamo tre serie. Non è escluso che ce ne sia una quarta, ma se mai ci sarà è perché è venuta un'idea forte per poter continuare, ma non solo per lasciare il successo. No, diciamo, perché sennò rischi che non legano una con l'altra, perché poi se no è nata per essere una serie soltanto. È vero che gli sceneggiatori, quelli veri, dico, non quelli di merda che stanno all'interno, quando scrivono un soggetto del genere c'è una storia orizzontale, una Bibbia lunga che ti fa presupporre che ci sia un proseguimento, come fanno gli americani, che anche loro sbagliano certe volte, ma Lost poteva finire un attimo prima è diventato, sì, tutto il sogno. Devo dire che la verità, io Lost mi ha preso tantissimo, ma l'ho abbandonato. Sì, mi è scattato proprio il ma vaffanculo. Esatto, io quando ho abbandonato mi hanno chiamato a doppia la quinta stagione. Ho fatto uno che è morto poi subito, perché ho detto non mi chiamate le serie che io guardo. C'era 24, certo. Kiefer Sutherland, certo. Quando mi chiama Massimo Rossi, guarda, c'è un personaggio di puntata, quando? Azzo, non ha compreso, sto fuori in tournée, se no venivo, non vengo. Certo. Invece ho doppiato soltanto Downton Abbey per rovinarla a mia moglie, che mi aveva distrutto una serie americana, Homeland. Ha detto il finale della terza stagione perché pensava che l'avessi già visto, e io sono andato, quando mi ha chiamato per Downton Abbey, che lei lo vede, ho detto vengo, e gli ho raccontato il finale della quarta e della quinta stagione che devo che vedi, Homeland mi manca, mi hanno tutti detto bellissimo, che è strepitosa, bellissimo, non l'ho vista ma bello, lo farò. Le dico, ormai lo vedi che le serie si sono buttati tutti, la serie è diventata il cinema del futuro, perché dentro ci sono attori ormai cinematografici, cioè... Sì, e poi perché c'è la possibilità, io parlo da attore, c'è la possibilità di raccontare 250.000 sfumature del tuo personaggio, che un film, per quanto sia meraviglioso farlo, ti devi tenere in quelle... In quei tempi pochi minuti, là. Certo. Però certo, magari ecco, un film è strutturato per quei 90 minuti, questi sono strutturati per 100.000 minuti. È vero pure che noi, ecco, le serie più di grande qualità le avete fatte voi, insomma, è Sky quella che costruisce queste serie e che le vende soprattutto all'estero. Ecco, chiederei qualcosa di più alla televisione di Stato, proprio perché dobbiamo dare la possibilità di uscire da questi confini. Sì, siamo sempre usciti, perché... abbiamo insegnato, no? A New York copiavano noi. Esatto, abbiamo dimostrato che quando le cose le facciamo e le facciamo bene, le vendono ovunque. Esatto. Per cui perché no? Perché fare no? Pure le storie di casa nostra, per carità. Ma anche quando fai una storia di casa nostra è fatta bene, perché poi il romanzo criminale è casa nostra, è l'Italia, è Roma, è la Magliana, ancora più stretto. Però riesce a vendere. Gomorra uguale. È storia d'Italia, è un quartiere, comunque. Romanzata, sì, esatto, romanzata. Beh, però sì, è storia d'Italia. Capito? Per cui è inutile fare delle cose. Pure aggiungi un po' sta tavola, l'abbiamo fatto noi, ma l'hai venduto in tutto il mondo, sono andati a farlo in America come Rugantino, eppure Rugantino è Trastevere, però l'hai venduto in tutto il mondo, e così è successo per la tua serie, per le altre serie. Ma che bella trasmissione, bravi. Oh, ci hanno scoperto oggi. Bravi soprattutto gli ospiti. Che succede in questo momento nella tua vita, caro? Guarda, Sartoretti, in questo momento stanno succedendo tante cose belle, anche alcune meno piacevoli. Si chiama vita. Sì, esatto. La vita è fatta, insomma, dalla vita, cioè, su e dalla vita in giù, esatto, è tutto a posto. Bravissimo. Tutto a posto. Esatto. Sei sia sposato? Su che giù. Ho una meravigliosa compagna. Benissimo, da quanto? Da tanti anni, da sei anni, sì. Fai vedere che lo sai bene, perché lo so. Non voglio sapere il giorno, perché quello non si dice, è privato. Però sono sei anni molto belli. Newyorkese? No, però ho origini argentine. No, e dai, sì, però sì. Italiana. Il papà è argentino. L'ha fatta tornare alla Garra. È nata qui. A Torino. Sì, sì. Quando, nella papà, trasmissione. Il papà è argentino, la mamma è italiana. Ah, lì c'è una Anzi, scusa. Facciamo gli auguri alla sorella, che infatti, Provedi. Tra le cose belle, insomma, quando ti dicevo ci sono tanti pensieri in questo momento, Giulia, la sorella, ha partorito questa bambina questa notte, per cui io infatti dopo vado. Ah, sì, dove? Vabbè, no, senza di noi all'ospedale si può dire tranquillamente. E certo, lì, per forza. Insomma. A casa abbiamo smesso. No, ti fanno vuol dire il nome dell'ospedale, ma non c'entra niente. Comunque è nata. No, ma, è nata in cucina. Sul fuori. Tavolo quello di acqua marmo. Calda. Prendete l'acqua calda. Gli asciugamani, presto. Che poi esatto. La cosa bella dei film, questi qua, delle fiction, è che ci fanno sembrare certe volte la nostra vita non giusta rispetto agli americani. Tu vedi AR, sta roba, quando entri nell'ospedale, presto lo stiamo perdendo, sì. 15 grammi di virivina, andate avanti, Cristo santo, vieni qui. E magari era venuta a chiedere un'informazione, sì. Cioè, è entrato, l'hanno intubato e lui voleva chiedere dov'è il bagno, anestetizzato, sì, di corsa. Però poi vedi la differenza con gli ospedali, vedi da noi, cioè, perché uno ha detto, vedi lì almeno sono bravi, qui entri, quello fa, allora che c'hai? Ho capito, sì, ma sì. Lì è un film ed è pure film, invece la gente lo coglie come realtà. E su questo noi a Roma potremmo fare sceneggiature su sceneggiature, insomma, uno arriva all'ospedale e e te guardi, fanno tutto a posto. Se era tutto a posto, magari andava al mare. Sì, sì. Però, poi se ti riconoscono ancora peggio, perché ti sei fatto male pure te? E te lo sanno dopo due secondi tutti quanti. No, non è così. Però questa è una bambina. E tu? Cioè, non è un gossip, è la trasmissione di gossip. No, questa, mai, Andrea. No, al momento, però l'hai detto, al momento. Hai detto con una faccia bella. Beh, l'hai detto, sì, bambina, la figlia è tua nipote praticamente. Beh, una bambina, io non ho ancora figli, ma. Sai come si fa? C'è chi, come questa persona qua vicino a me, Mauro, ne fa subito due. Così. Perché vuole, tu lo dovevi in faccia quel giorno quando me l'ha detto. Vuole una vita tranquilla. Aspettiamo due gemelli, un figlio. Diciamolo, E poi è cominciato a piangere. Sono due. Due gemelli, due ragazzi. Ragazzine, però no, io non ho ancora figli, però avere una bambina deve essere una cosa molto bella. Ci piace. Beh, io ho tre maschi, per cui una bambina mi piacerebbe molto, almeno quella sarà quella che mi accompagnerà al parco fra un po', capito? Se no chi mi ci accompagna assolutamente. Quanto dobbiamo andare? Abbiamo ancora due minuti e poi un altro, l'ultimo blocco insieme, ovviamente. Volentieri. Lo Sliding Doors è stato un romanzo criminale, ovviamente quello, sì, che ti ha. Ma sì, insieme, insomma, avevo cominciato già un po' con Boris, però sicuramente ci ho pensato romanzo criminale. E poi ci sono stati un paio d'anni in cui facevo sia romanzo che Boris. Poi c'è stato Boris il film. E dove... poi è stato Ogni maledetto Natale. Sì, Ogni maledetto Natale. Un film bellissimo, secondo e me. E poi c'è stato Acme. Insomma, ho avuto. Secondo me la fortuna che ho avuto è di non concentrarmi soltanto su una strada. Sì, per cui ho fatto sia commedia che insomma film un po' più drammatici o anche alcuni molto hai violenti. Hai fatto benissimo subito a far capire che sì, potevi essere altro. Sì, beh, quella è la cosa più divertente di questo lavoro, insomma. Certe volte però non te lo permettono, perché sei quello e ti faccio rifà quello, poi ti faccio rifà quello, certo. E poi rischi di cambiare e dici no, non sei più quello, io non ti seguo più. Ne parlavamo l'altro giorno proprio con Frank Merenda, che ogni tanto purtroppo noi siamo un brand, ti vedono in quel modo. Se tu a un certo punto becchi quella nota e fai bene quel personaggio là, te lo fanno fare per 7 volte, perché quel personaggio là in Italia lo puoi fare solo tu. Esatto. E poi però a un certo punto l'hai fatto troppo, per cui non lo puoi fare più e non tu, te fanno falta fa più niente. Ma non sarà così. Allora signori, restate con noi per gli ultimi 10 minuti insieme, per poi dare la linea e sentire cosa è successo nello sport intanto noi, e poi continueranno loro ovviamente con tutti i convocati. A tra poco con Voice Anatomy e il bravissimo Andrea Sartoretti. A tra poco. Voice Anatomy. Di ritorno come promesso, molto rapidi, 16, 46 minuti e 7 secondi in questo momento. Andrea Sartoretti, parlavamo dello sport prima, lui dice giustamente io non lo seguo, ma no, io lo problema. Sport in realtà lo vedo, non ho una fede, no, il calcio lo vedo, io adesso quest'Italia mi ha fatto innamorare assolutamente, l'ho seguita e l'ho tifata tantissimo, non ho una fede. Sei nazionalista. Guarda, dai. Simpatizzo per il Cagliari, pensate. Perché mamma è sarda. Origini. Vedi, c'avevo un'idea. Sì. Anche se sei newyorkese, dovresti essere dei New York Giants. E invece alla fine che sembra un po' così, va bene, che lingua è difficilissima. Meraviglioso. Invece no, voglio parlare proprio perché siamo in finale, nel finale poi la trasmissione cresce anche, c'è questa poi osmosi con tutti i convocati, c'è il tuo ultimo film che è stato presentato a Venezia, che è Mountain. Sì. Del regista iraniano Amir Naderi, spero di averlo pronunciato bene. Benissimo. Ma come è successo questo? È successo che Amir Naderi è un autore impressionante, insomma, è tutta la gang di Kiarostami, Barami, insomma, degli iraniani newyorkesi, diciamo. E lui aveva fatto i suoi precedenti film appunto negli Stati Uniti, in Giappone, e voleva fare questo film in Italia, per cui ha fatto degli incontri, ci siamo incontrati, così insomma è nato. Per cui è girato qui in Italia? È girato tutto sulle montagne dell'Atemar, abbiamo girato a 2500 metri, film non ambientato facile. Nel 1300, per cui io ero vestito con una busta di juta sotto qualcosa che coprisse, però. No, perché lui voleva vedere la pelle, lui voleva vedere la carne. Ho per capito, cui dopo dovevo vedere chi ti riconosceva steso, però. Esattamente. Avete fatto come Revenant, come Re di Vivo. Beh, guarda, è stata una esperienza sicuramente più belle e anche più faticose che io abbia mai fatto. Però grande verità, quando reciti in quelle condizioni. Sì, no, ma io lo farei tutti i giorni. Io se potessi farei solo film così. Ma no, perché comunque lì è faticoso. Però poi sono delle esperienze che ti riempiono di vita. Quest'uomo è un personaggio incredibile. C'ha 70 anni, 69 quando abbiamo girato il film. Ed ha una vita che ti invade. Che è un film, quella. Ma assolutamente è un signore che è rimasto orfano a 5 anni ad Abadan, una città portuale iraniana. E a 5 anni era un bambino randagio, viveva di espedienti, proprio da lustra scarpe a elemosina a qualsiasi cosa, e ha sempre avuto la passione del cinema, e con i suoi film è finito a Cannes e a Venezia. Questo significa soltanto una cosa, che è direttamente proporzionale il sogno a quanto veramente riesci a toccare, a quanto lo pensi, a quanto lo vuoi. Una assolutamente cosa. Se c'è riuscito lui, ci può riuscire chiunque, ed è quello che racconta in questo film. Perché in realtà, guarda, la storia è molto semplice, poi è emotivamente più complicata, però la storia è molto semplice. La storia di Agostino, di questo, e della sua famiglia, che vive in questo villaggio. Questo villaggio si trova ai piedi di una montagna, questa montagna non fa passare i raggi del sole, per cui vivono all'ombra, e lui combatterà la montagna e cercherà di abbatterla per far tornare la luce sul suo villaggio. Per cui è la storia di una assolutamente è la storia di una sfida, ed è la sua vita. Lui è riuscito a far tornare la luce nella sua vita, a buttare giù questa montagna. Assolutamente, ma lui l'ha fatto veramente, e ogni giorno sul set, la sera, lui veniva in albergo, saliva in camera a me e l'altra attrice del film, che si chiama Claudia Potenza, e ci raccontava ogni sera una storia della sua vita, tutte le sere, per 20-25 minuti, per un aneddoto. Entrare in quel mood, certo. Poi queste storie in realtà a volte avevano a che fare con il film, a volte no, però intanto entravano. Lui ce le diceva, perché sapeva che poi partiva la digestione. in qualche modo, sì, in qualche attori, modo. Voi due figli, beh, all'interno? Praticamente noi due, il nostro figlio, all'inizio c'è anche, ci sono altre famiglie in questo villaggio che però andranno via, e poi no, ci sono anche altri attori, perché io quando vado nel villaggio dove c'è la luce, cioè dall'altra parte della montagna, a cercare di trovare qualche soldo, però sì, il cast ha è una molto distribuzione piccolo. Italiana? Sì, sì, ha una uscirà. Distribuzione italiana, e dovrebbe uscire credo la seconda settimana d'ottobre, ce lo dicono in questi giorni. Ma sì, bello, sì, è sicuramente difficile, un film di sé non è una grandi sale, da miliardi di sale, però no, assolutamente, però già ci hanno detto che dovrebbero essere 40 copie, che per un film del genere no, sono è un miracolo, certo. Assolutamente, siamo felicissimi. E Venezia è stato un recitato in italiano? Recitato in italiano, sì, bene. Recitato in italiano, ma ambientato nel, nel 1300, sì. Infatti adesso stanno arrivando tutte le belle notizie di un sacco di festival che hanno selezionato il film. Fra 7 giorni ho questo viaggio di cui sono molto felice, perché sarà una bellissima esperienza, ma c'è anche il lato negativo. Dove? Vado in Corea a questo Busan Film Festival. Io ho visto su YouTube, è un festival in realtà molto importante, insieme a Hong Kong sono i due festival più importanti, sì, dell'Asia. Però ho visto che su YouTube, ho visto un po' come fanno le cerimonie d'apertura, in realtà insomma, un capodanno napoletano è un evento sobrio in confronto. No, e gli attori li tirano in aria. E gli attori li tirano in aria. E questa è la parte bella. La parte brutta è che Roma-Seul e poi Seul-Busan, che è dove si svolge il festival, sono credo una 17 ore di volo. Però se prendi il 75 qui a Piazza Indipendenza e te fai tutto e poi raccogli, cioè, secondo me taglino 20-30 sì, minuti meno. Che a me non piace proprio stare lassù. No, lassù si sta tranquilli. No. Credimi che c'è una gran paura. No, lassù si sta tranquilli. Mm. Resta invece qua giù un attimo con c'è Capuano, che io lo chiamo mai una gioia. Eccomi. Ecco, io non so niente, nessun allora risultato. Ti dico che ha appena segnato la Lazio. Ma dai. Pochi istanti fa con Radu, colpo di testa. E ma era 0-0 prima? No, erano già 1-0. 1-0 che adesso è diventato 2-0. La Lazio chi ha segnato il primo? Sta chiudendo, manca un minutino alla fine del recupero. Aveva segnato Keita poco prima della mezz'ora del primo tempo. Keita gol. Non lo facevano giocare. Alla prima da titolare. Pino ha gli occhi lucidi. Ve lo dico perché non ce l'ho vicino, è la verità. No, si è commosso. No, Sartoretti, detto anche bufalo e sceneggiatore di merda. No, sì, è vero. Vabbè, Radu è diventato capocannoniere della Lazio, ma noi siamo così, dobbiamo vincere pure un po' con le grandi, insomma. 2-0 per la Lazio. Perdonami Lulic, perdonami. Lulic 2-0, sì. Te l'ho detto che aveva appena segnato. Ti ringrazio. Se è la prima volta che in un anno e mezzo mi apri con una gioia. Vabbè. Te ne do un'altra. Dai. La Roma ha perso lo scudo. Quello lo sapevo perché stavo mangiando qui sotto prima di cominciare, il mio amico Meconi e Alessia Navarro, che sono gli autori, erano un po' più tristi. Però vabbè, li abbiamo raggiunti in classifica. Ti do gli altri risultati. Gli altri risultati, l'unico sì. Finale sin qui è Sassuolo-Udinese 1-0, gol di De Frella al 34esimo del primo tempo. Si sta giocando ancora a San Siro, mancano 4 minuti del tempo di recupero. 1-1 tra Inter e Bologna. Il Bologna vinceva 1-0, gol di destro all'inizio su un clamoroso doppio errore di Kondogbia e Handanovic. Poi c'è stato il pareggio di Perisic, c'è il debutto di Gabigol, che è entrato intorno alla mezz'ora di questa ripresa. Però è l'Inter che sta rischiando molto di più in questo finale, molto sbilanciato, e rischia sul contropiede del Bologna. L'altra partita che si sta chiudendo proprio in questi istanti, mancano una ventina di secondi, è Genoa-Pescara. Il risultato è 1-1, il Genoa vinceva 1-0 con il primo gol in Serie A del figlio di Simeone. Poi però Simeone è rimasto Diego Pablo, il figlio, bello. Giovanni Simeone, detto il Ciolito, che ha segnato il primo gol della sua carriera in Serie A. 1-1 perché il pareggio è arrivato al 40esimo del secondo tempo, l'ha segnato Manai, ma il Genoa in quel momento era 9-11 per le espulsioni di Eden Nilsson e Pandev. Ma c'è nient'altro, vabbè, io sono un po' contento. Uno, mio padre è nato a Genova, però origini calabresi, e va bene, però è anche molto amico di Oddo, per cui insomma diciamo che sono contento da tutte e due. Abbiamo tutti delle origini calabresi. Tutti, noi veniamo tutti da Reggio Calabria. Tutti, come siamo tutti della Nestlé, esatto. Abbiamo tutti delle origini calabresi, ho scoperto. Va bene Capo Hans, ti ringrazio tanto. Grazie a te, a domenica. Buona trasmissione, te la lascio fra 20 secondi il timone, un bacio, grazie. Ovviamente era ironico il bacio, una stretta di mano, amico mio. Andrea Sartoretti, grazie, in bocca al lupo, grazie della tua disponibilità, della tua simpatia, della tua grande accoglienza, perché sei stato un ospite straordinario. In bocca al lupo per questo Mountain, perché sono dei film interessanti che lasciano un segno importante nell'uomo. nell'uomo, oltre che nell'attore, ma nell'uomo lasciano un segno io importante. Io veramente invece grazie di cuore a voi. Grazie, grazie, grazie a voi che ci avete seguito fino adesso. Do la linea a tutti i convocati. Grazie Alessandro, grazie Gaia, grazie a Milano, grazie Alessia, grazie Mauro, grazie a voi che ci avete seguito in diretta su Facebook. Grazie, beh, mi stanno intingando delle cose brutte, ma io non lo dirò mai, non sono cruciani, anche se li voglio bene. Alla prossima domenica, ciao.